Buonasera, spero di non disturbare il suo lavoro così importante per la pace. Amica, è Ra della Zanzara. Sono il Santo Padre. Qui alla Zanzara fanno sempre questi scherzi. No, sia guardi, Cruciani, non, sia non è uno scherzo questo. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Io la voglio vivo, la voglio con le parolacce, la voglio piena di contraddizioni, perché è nel contrasto che c'è la vita. Se no è come tutte le altre trasmissioni, e allora che facciamo? Barisoni, ti viene a prendere il cellulare per favore, per l'ennesima volta si è dimenticato il cellulare il signor Barisoni qui dentro. Allora, qui vedo diversi messaggi, come al solito, molto compromettenti, Parenzo, eh? Soliti messaggi ma compromettenti. No, sì, no, ma come no? No. La solita roba, perché mentre lavora gli arrivano messaggi da parte di altre persone, è normale, succede sempre così. Poi, poi uno va a casa. No, ma che economisti? Poi uno va a casa e ovviamente non può più toccare con la fidanzata, eccetera, non può più toccare il cellulare. Allora, signor Barisoni. Io dubito che nel telefono del signor Barisoni ci siano messaggi della signora Nappi, ad esempio. No, però c'è qualcuno, ti voglio. Numeri non memorizzati. Numeri non memorizzati, ti voglio, ti aspetto. Ti aspetto. Ti voglio, ti aspetto. Diversi numeri, non i soliti, non un numero solo, capito? Comunque, vabbè, io non voglio adesso farmi gli affari. Intanto leggiamo qua un attimo questo messaggio. Però non voglio farmi gli affari. Sei andato via presto ieri sera, peccato. Ma perché devi leggere? Vabbè, non mi faccio gli affari degli altri. Però, signor Barisoni, conduttore di Focus Economia, nonché vice direttore di questa radio, per l'ennesima volta si è dimenticato il cellulare qui dentro. Dunque, io ho libero accesso in questo momento a tutti i messaggi privati e non privati e non. Ti prego. Allora, ci ho riflettuto un po', devo dire, e sono arrivato a una conclusione, caro David. La conclusione è questa. Ma scusa, abbi pazienza, le cose non sono paragonabili, no? Però uno che è un politico, per carità, non è un vignettista, cioè non è uno che fa satira, un politico che nel suo sito Facebook mette la foto della Chienghe nei banchi del Parlamento sostituendo la testa con quella di un orango e ponendosi la domanda: secondo voi chi è? Ora, per carità, non è satira, dunque quelli che dicono oggi, compreso Salvini, che è satira, ma allora non siamo tutti Charlie, eccetera eccetera, è una puttanata questa cosa qua. Però, un anno e tre mesi, l'abbiamo già detto ieri, un anno e tre mesi per discriminazione razziale, diffamazione con aggravazione, aggravata dalla diffamazione razziale, e in più 150.000 euro, no, non ci siamo. Già l'ho detto ieri alla Chienghe che era esagerato. In più, la signora Chienghe, ieri ospite della Zanzara, cosa ha detto? Certo, scherzava anche qui, immagino, però ha detto che non basta la condanna, non bastano i 150.000 euro, non basta le dimissioni che lei vuole, ma addirittura vuole che questo leghista che si chiama Rainieri, Fabio Rainieri, faccia il giardiniere, cioè che vada a spalare con la paletta nei suoi giardini, perché certo. Deve fare anche se... ma come certo, dai, su, David. Ma certo, è razzismo puro. Ma cosa c'è? Ma dai, su, dai, comunque. E in un paese civile il razzismo lo si condanna non con le civitarre, ma col carcere con 150.000 euro. Con le multe e con i servizi sociali a casa della Chienghe, dai, su, sappia. No, pure anche nei Chienghe e i giardini vuole fare diventare il leghista un giardiniere. Guarda, io direi anche un po' anche di, cioè di lavori socialmente utili non sarebbero male. Cioè che dovrebbe fare tipo di giardinetti? Sì, magari a casa mia, cioè. Le grasse risate di Parenzo e della Chieng. Della Chieng. Allora, ieri sera, scherzi a parte, Parenzo protagonista, anch'io ovviamente nella, nell'architettare la burla nei confronti del, di Parenzo. Molti dicono leone alla radio, con gli ascoltatori, con il famoso Riccardo da Roma, nello scherzo di Scherzi a Parte e delle Iene, praticamente atterrito. Sentiamo. Ma un trillo inopportuno interrompe la sua frenetica attività. Oi. Eccoci. Adesso con il cellulare scarichissimo, sto tornando da Siena a Roma. Ma ho letto oggi un articolo sul Corriere. Non sono riuscito a trovare i giornali a Siena, mi hanno segnalato che c'è una roba... C'è un'intervista Gubitosi, non so dove, su... Sono incazzato, cosa vuol dire? No? Il tono della telefonata è un po' fastidioso e allora ci pensa Riccardo da Roma. Ho fatto questo cellulare, mi ha svegliato. Ho finito col cellulare, che mi ha svegliato. E pensavo, no, che devo fare da tutto e mi ha svegliato. Insomma, mi ha svegliato. Il controllore sembra aver riportato tutto all'ordine, ma in realtà è solo l'inizio. I gafoni, coglione. Ho detto coglione. Ho detto, ma chi è questo qua? Me lo dici a me, per favore, che lo denuncio? Sei un coglione. Perfetto, fammi a denunciare. Perfetto. Ma guarda, ma puoi anche chiamare i carabinieri subito al telefono. Fammi a denunciare, denunciami. Sei un coglione. Nuovo? Assolutamente, sei anche un comunista di merda, come la vedi? Parenzo cerca sostegno dagli altri passeggeri, ma viene completamente ignorato. Quindi sto cazzo di cellulare, devi spegnere il cellulare, comunista di merda che non sei altro. La smettiamo. Allora, Quirinale vacante da domani. Napolitano oggi ha detto è come una prigione. Devo dire che è leggermente offensiva questa cosa qua, se poi, cioè, ma non puoi dire mi sento come in una prigione, cioè una prigione super dorata, uno che sta 9 anni al Quirinale e che dice che il Quirinale è una prigione. Dai, su, ma di che stiamo parlando? Il Presidente della Repubblica, no, che ha fatto un sacrificio enorme, vista l'età, ha fatto un sacrificio. Ma ho capito, ma che sacrificio? Ma quale sacrificio? Dai, ma basta con questa retorica del sacrificio. Ma che vuol dire il sacrificio? Hai fatto il Presidente della Repubblica, mo un sacrificio, ma dai, su. Questa cosa è veramente una buffonata, dai. Quasi 90 anni. Ma vabbè, quasi 90 anni, se uno non voleva non lo faceva, dai, su. Il moderato imam di Londra, non stiamo parlando dell'imam di Cinisello Balsamo, l'imam di Londra dice a Piazza Pulita quello che dice, cioè che non crede alla libertà di espressione, che il Corano è chiaro e chi insulta Maometto deve morire, se altri insulteranno ci saranno altri attacchi, eccetera eccetera. Ma sentiamo uno di questi pezzi, è uguale, tanto è l'imam di Londra. C'è una lunga lista di persone che hanno insultato il profeta e molte di queste sono già state uccise. Che vi aspettavate? Mi sta dicendo che la strage nella redazione di Charlie Hebdo sia giusta? I droni americani ci bombardano durante i matrimoni, i funerali. Molte persone sono state torturate, persone innocenti. E beh, quello che è successo a Parigi, il Corano è molto chiaro su questo. Chiunque insulti il profeta deve morire. Renzi dà degli ignoranti a quelli della Lega Nord oggi al Parlamento Europeo. Difficile per voi leggere più di 2 libri, leghisti ignoranti. Io vorrei lasciarvi non con un pensiero su Telemaco, ma con un pensiero su Ulisse. Perché è difficile leggere più di 2 libri, è difficile per alcuni di voi, lo capisco, però ho imparato che cosa fosse l'Europa non nei corridoi delle istituzioni. Ho imparato cosa fosse l'Europa, signor Presidente. grande ritorno alla Zanzara dopo Natale, Capodanno, quello che è, Vittorio Sgarbi. Eccolo. Dove sei? Dove sei, Vittorio? Sono a Pietrasanta a vedere una bella mostra della famiglia Tommasi con molte sculture e pitture, poi vado a Viareggio a vedere la mostra di Lorenzo Viani. E oggi ho visto con il sindaco di Firenze. Che fa il sindaco di Firenze? Ti sei visto con Nardella? Con Nardella ho visto la mostra, il museo del Novecento che hanno fatto. Vittorio, ma che sei? Mi va voce? Che sei? Mi va voce? No. Sono andato a fare la pipì e sto scendendo dalla pipì. Dalla pipì. Pure tu fai la pipì? Così. Ogni tanto forse sentivi il rimbombo del bagno, forse da quello. Forse il rimbombo del bagno, ma non ho capito, tu vai a fare la pipina, ovviamente in autostrada, cioè fai più volte la pipina. Sì, è vero, ma mai te la faccio all'aperto, ma è solo che tu sai dei dettagli, preferisco essere più lì. Questo non sono in un bagno normale. Ma non c'è qualcuno che ti fa che ti accompagna a fare la pipì? Cioè... Sì, certo, per scrollare, no, ma questa è la parte che voi preferite, questa parte delle intimità. No, sì. Stavo parlando di cose serie. No, ma adesso arriviamo alle cose serie. Però le parti intime, private parts sono fondamentali. Sì, poi nelle case mie sono sacre, quindi vanno guardate con grande ma rispetto. Ma c'è mai qualcuno che ti ha accompagnato a fare la pipì? Tu che sei, come dire, la macchina non la guidi. La macchina non la... Sì. Se dobbiamo deviare le tre fate in questa direzione, possiamo dire che l'esperienza si conosce, insomma. Non è che mi sia sempre sottratto a... Okay. Azioni così di puro divertimento, quindi può essere pure quello che tu dici, insomma, ma non mi sembra che sia vitale nella nostra conversazione. No, non è vitale, però è sempre un dettaglio. Sarà perfino a te. Tu sei mai stato con una donna in un bagno? Beh, sì, ovviamente sì. Allora, certo. Tu vai in bagno e ti accompagna, poi dal bagno si arriva a una cosa o all'altra, ma chi se ne frega? Perché io quello ho sempre notato in te, che sei un ragazzo intelligente, questa morbosa curiosità per i cazzi degli altri. Ma chi se ne frega a te? Ma anche tu non è che sei per i cazzi degli altri. Ma io non sono quello, solo del mio. Se ti accompagni qualcuno al cesso, a me non me ne frega niente, a te te ne frega invece. No, a me frega. Ricordo la pagina tua meravigliosa quando hai chiesto se scopava ancora la ripa di Meana. Sì, beh, certo. Perché te ne frega a te, ma è terribile, capisci, questa tua attenzione alle scopate. Ma no, non è terribile, Vittorio, è normale, è morbosità. No, è un modo per rendere più divertente la trasmissione. Ma no, ma è una mia caratteristica, io porto qui dentro, io porto qui dentro quello che è il mio carattere, le mie tensioni, le mie cose, lo faccio in maniera assolutamente naturale. No, perché no, ma io lo so, è una parte disturbata la tua. Ma che disturbata? Ma che disturbata? Se ne può fregare se qualcuno accompagna in bagno Parenzo, eppure tu no, è interessante capire se Vittorio Sgarbi, che di solito, come dire, non si è mai fatto il letto in vita sua, penso che nessuno non ha mai stirato nulla in vita sua, non ha mai fatto da mangiare, immagino, non ha mai cucinato, eccetera, è arrivato persino a farsi accompagnare in bagno, a farsi dare una mano a fare la pipì, così è una pura curiosità. Questo posso averlo fatto con una finalità diversa, non per l'obiettivo di non essere in grado di farlo da solo, ma per poter in qualche modo creare una situazione privilegiata. C'è una situazione di perversione, dici tu, una situazione più che turbamenti, di turbamenti, gli amori, sì, gli amori nelle e poi per esempio sei un grande ma tu sei uno che ha fatto sesso molto all'aperto, no? No, per la verità all'aperto un po' di disagio me lo crea questo grande cielo sopra di me con Dio che mi guarda, preferisco i confessionali. Cioè tu hai fatto qualche volta hai fatto l'amore in una chiesa pure? Sì, lo possiamo dire. No, lo potete dire, dico, preferirei, ma invece posso dirti dove l'ho fatto, come non altri, e potrei dirti anche con quali interlocutrici particolarmente degne di memoria, ma non te lo posso dire, a teatro ma durante il coso? Un palco solo, durante lo spettacolo, quello è meraviglioso, sei lì con una ragazza. Mentre da solo devi avere un palco tuo, qualcuno suona una musica sublime e tu ti affacci e da dietro, mentre lei si affaccia a guardare con te, agisci. Quella è una delle voluttà più alte. Con la quinta di Beethoven, capisci? Una cosa che... Lo vedi che anche tu ti esalti a ricordare queste cose, diventi caldissimo. Questo si può raccontare perché c'è il teatro. Però secondo me anche la chiesa, io sono sicuro che la chiesa è stata profanata da Sgarbi. Posso dire questo e posso anche dirti il luogo, che è vicino a Torino, Castellammonte, però la chiesa era sconsacrata. Per cui mi sono comportato con un certo rispetto, visto gli argomenti di cui stiamo parlando, del luogo, nel senso che la chiesa era sconsacrata, era una specie di aula così per mostre, e quindi non è stato un atto che ha avuto un significato. Però anche in una chiesa sconsacrata. Comunque la blasfemia, torniamo tra un attimo perché c'è un aggancio dopo i racconti intimi e privati di Vittorio Sgarbi, su cui dovremmo fare un'intera puntata. Ascolta Vittorio come parlo, intera. Ormai è tutto degradato ormai. Siamo con Vittorio Sgarbi qui alla Zanzara. Sì. Vittorio, ci sei? Eccomi, sì. Eccoci qui. Dicevamo, ma non lo credo, quelle vignette, per esempio, che ritraggono Maometto anche col culo di fuori, e che sono, che ne so, che dicono che tutti i musulmani estremisti sono dei coglioni, tu come le ritieni? Blasfeme? Le ritengo blasfeme, nello stesso senso in cui ritengo blasfema la bestemmia che farebbe sì che tu fossi allontanato forse dalla radio se la dicessi, o che comunque ha determinato alcune, cioè, come le bestemmie, cioè dire, raffigurare Maometto col sedere di fuori, o comunque insultarlo, ma o dire, anche citare gli episodi italiani che sono quelli della Madonna che piange sperma che fu esposta a Bologna e Cofferati la fece togliere, la rana crocifissa e determinò scandalo questo a Bolzano, poi il Cristo dentro la pipì di Serrano che determinò una grande protesta, anche se poi alla fine è un'opera che è diventata, almeno nella sua fotografia, qualcosa di accettato dal punto di vista visivo, oppure la meteorite sul Papa di Catalan, cioè tutte cose che hanno determinato delle reazioni di una religione che difende la sua sacralità. Per cui questi qua non lo puoi impedire, potresti però, come era un tempo la bestemmia, punirla con una multa, oggi forse. Cioè, secondo te andavano multati questi qua di... Ecco, quello che non funziona nel meccanismo, questa è la cosa vera, è che se pur la bestemmia sia un errore e la satira contro la religione sia un errore contro l'intimità della coscienza di chi ha fede, la morte è una pena eccessiva. Cioè, vabbè, quello mi pare scontato. Le notte che io ho fatto contro i giudici erano perché, a fronte di un reato, la colpa, cioè mettere in galera Cagliari finché si suicida, mi sembrava una cosa enorme rispetto al reato attribuitogli, e così via. Tutte le volte che una pena supera anche la cosa di Corona, di cui tante volte hai parlato, cioè, se tu hai una pena superiore alla responsabilità di quello che fa, non dici, ma perché? Però vanno multati, cioè quelli là di Charlie Hebdo, quando se la uccide viene assolto, perché uno che invece fa delle fotografie sta in galera 7 anni, caso Corona, e quando è troppa la pena che passi dalla parte del torto, allora tu puoi multare, sanzionare, loro addirittura frustano, come sai, si frusta chi, e fino a frustare posso capire che è una religione, ma uccidere, ma come frustare? Come frustare, Vittorio? No, voglio dire che nelle pene che loro prevedono per chi fa atti di blasfemia, cioè secondo te le frustate per blasfemia nell'ambito di un paese arabo nell'ambito del loro paese hanno una logica, non dico che siano giuste. Beh, ho capito, però come hanno una logica? Uno deve battersi contro queste cose, dai, no, su. No, ma non sto dicendo che io non mi batto, non sto dicendo che uno che sta nell'Occidente democratico non deve, però nell'Occidente democratico hai avuto anche molta gente che è entrata negli uffici della polizia e ne è uscita morta. Vuol dire che allora le misure di polizia sono una cosa che può portare a un crimine senza che ci sia una legge che lo legittima. Qui invece l'azione che loro hanno compiuto è un'azione in nome della legge di Dio, che non può consentire di uccidere. D'accordo, allora, però tu dici questi qua non li consideriamo eroi, erano blasfemi. No, diventano eroi quando tu non li hanno fatti diventare eroi. Se tu a uno che ha fatto una cosa che merita, non so, 200 euro di multa, lo uccidi, e quello diventa un eroe. Sì. Cioè l'eroismo è conseguenza dell'atto che questo ha patito. Però secondo te erano blasfemi. Andavano solo multati. Andava chiesto a quel giornale di smetterla e fargli pagare una multa. Ma no, per quello che avevano fatto. Ma io invece voglio vedere Maometto col culo di fuori. Voglio vedere Maometto sempre col culo di fuori. Sì, questo potresti vederlo, però dovresti vedere allora qualcosa che riguardi la tua religione. Perché non dici la cena? Perché non bestemmi il nome di Dio? Prova a dire una bestemmia. Ma no, ma che c'entra? Sono due cose diverse. Tu non puoi bestemmiare perché ti cacciano a pedate. Certo, sei un vigliacco. Bestemmia. Ma che c'entra? Sono due cose diverse. Ma sono due cose diverse. Hai paura, sei pauroso. Ma che pauroso? Sono due cose diverse. Il Corano, lo metto con culo di fuori, deve avere il coraggio di bestemmiare Dio. Bestemmia. Ma non come vuol fai? Dire niente, sono due cose no, molto diverse, Vittorio. No, è la stessa cosa, la stessa cosa. Tu pretendi la libertà per gli altri, ma c'è anche per te. Ma no, ma io non me la sento poi di bestemmiare. A me non me ne frega niente di bestemmiare, scusami. Ma perché devi bestemmiare? Ma infatti, secondo me non bisogna nemmeno punire chi bestemmia. Cioè, no, non bisogna. No, ma secondo me la bestemmia non... Il paradosso che faccio rispetto a te è che questi qui hanno esagerato e sono stati uccisi. E vabbè, questo l'ho capito, questo l'ho capito. Tu puoi esagerare, ma nessuno ti uccide, però ti cacciano a pedate. Vabbè, la Radio 24 ti dice, caro signore, allora... bestemmia a casa sua. Vabbè, d'accordo. Però c'è un limite, la religione va rispettata. Le fedi vanno rispettate, esatto. L'intimità religiosa, che sia ebraica, musulmana, ma sei diventato, ma sei diventato un bigotto pazzesco, no, dai. Bestemmia la Madonna, se hai coraggio. Ma non vuol dire niente. La Madonna, una cosa che diresti di una qualche signorina, dilla. Ma non vuol dire che ti cacciano. Ma certo che mi cacciano, ma certo che. Ma che c'entra la vigliaccheria? Ma se io non voglio. Ti cacciano, fanno bene a cacciarti? Io non l'ho detto, io quando voglio dire, guarda, la discussione seria fra me e te si può fare, però ti sto dicendo. Ma è una discussione serissima questa qua. No, tu non puoi dire voglio vedere Maometto col culo di ma non è che voglio, se uno ha intenzione di fare una vignetta, perché nella sua, come dire, ma nella sua. Ma l'ha fatto, vedi come sono finiti. Loro sono finiti così, tu corri meno rischi, ti cacciano dalla radio. Però non secondo te, c'è un limite. La tua libertà, in nome della tua libertà, fallo. Ma no, ma perché non me la Madonna nel nome di Dio? Ma perché non lo fai? Perché ma no, non ho il coraggio perché non lo voglio fare. Ma perché non lo voglio fare? Invece perché hai paura? Ma no, paura. Perché ho paura? Perché non me la sento? Non mi sento di farla. E poi devo dirti un'altra cosa. Anche se uno, come dire, qui in radio a qualcuno in radio scappasse una bestemmia, se gli scappa ovviamente, non se ne fa un uso quotidiano. Se gli scappa nel ma figurati, ma io sono meglio di te. Cioè non è che io penso che la bestemmia è uno sfogo. Talvolta non è neppure contro Dio, quindi puoi esatto, essere personale, esatto. Però sto dicendo che quello che tu stai invocando per la libertà dimostra che tu non sei un uomo libero. Ma no, perché io non lo faccio, perché non lo uso come intercalare, non lo uso come espressione. No, però a un certo punto tu decidi, invita qualcuno, allora invita un musulmano che ti insulti la Madonna. Ma io va benissimo, se lo vuole insultare io dico perché sta insultando la Madonna, perché eccetera eccetera eccetera. Ti fanno chiudere lo stesso. Ma no, se mi fanno chiudere lo stesso, vediamo se mi fanno chiudere lo stesso, Proviamo, trova qualcuno che è disponibile a farlo. Vabbè. Io non sto dicendo che non ci voglia la libertà assoluta, dico che insultare la religione di un altro è un atto inquietante. Vabbè, ma Parenzo è d'accordo con te. Inquietante, anche se lo fanno questi ragazzi che forse scherzavano. Aspetta, Vittorio, che Parenzo gli dà ragione, ormai siete alleati su questo. Io te l'ho detto in questi giorni, ha assolutamente ragione Sgarbi, c'è bisogno di buon senso. Ho capito, tanto non si sente Parenzo. Io voglio capire. Io l'ho sentito, sì, ma non volevo neanche polemizzare con voi, sto dicendo che la mia posizione, questa era sbagliata, è che le religioni vanno rispettate. Questi ragazzi sono stati consacrati con il sangue, consacra. A me lo diceva un argentino, quando dice perché un agrigentino, perché sono tanto importanti i magistrati che talvolta hanno sbagliato? Perché hanno pagato con il sangue. Dopo Moro nessun politico è stato più ucciso. Sì, i magistrati uccisi, che avessero ragione o torto, hanno pagato con il sangue. Questi di oggi, della rivista francese, sono dei martiri perché hanno pagato con il sangue la loro libertà. Sì. E la punizione gli ha resi santi. Non è che fosse giusto quello che hanno fatto. Cioè, no, ho capito perfettamente. Si condanna ingiustamente. Ho capito. Lo uccido, è chiaro che diventa un santo. Ho capito perfettamente. Senti, dal vetro qui. No, ma io non sono d'accordo, ma ho capito. Mi chiedono, ma l'hai mai fatto in un museo? In un museo? Sì, in un museo, sì. Credo di sì. Insomma, non ho abusato del mio potere, però l'avrò fatto in un museo abusivamente, insomma, senza farlo sapere, magari con la direttrice del museo. Come con la direttrice del museo, scusa? Può darsi che l'abbia fatto, non lo so. Ma com'è? Perché non lo so? Perché tante stanze. Ma no, perché non è che mi piace, ho capito che dai temi seri dovrei passare a quelli divertenti della mia vita. La mia vita è piena di cose spiritose e divertenti. D'altra parte, D'Annunzio aveva delle pantofoline con due cacci, quindi è chiaro che uno può vivere in maniera dandistica, per cui tante cose possono capitare, però non è che vanno raccontate nel dettaglio. Come no? Sempre il dettaglio! Anche... Il dettaglio è fondamentale! Me lo insegni tu che è fondamentale il dettaglio! Adesso ci hai ripensato! Fermi tutti! Giornale Radio. Io detesto quasi tutto di tutto questo teatrino ignobile. Cruising down on the motorway. Got my girl by my side. Ma qui è tutto un casino, che siamo... Ma dove stiamo? Ma dove vogliamo andare a finire? Ma non facciamo ridere, per favore. Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. Allora, Parenzo finalmente è arrivato nella sua stanza d'albergo, Hotel Le Maturin a Parigi. Beh, non occorre che però dai ai 2 milioni di ascoltatori. Assolutamente, diamo tutte le coordinate. Le Maturin. Tu alla regia durante l'intervallo, perché qui è una casa trasparente, una casa di vetro. Hai detto, dite a quel cialtrone che sono in un grandissimo albergo. A quel poveraccio sempre lì chiusi in quegli studi, al buio, senza arte né parte, in quella caverna, a sparare. Piano, parla piano. Contro il profeta e contro il Io non ho sparato nessuna blasfemia. I nostri dei. Io invece sono qui a Le Marais, sono in un albergo di Parigi, diciamo. Sì. E tra poco scenderò a capire. In un albergo di Parigi che si chiama Le Maturin. E sotto, se voi andate sulla pagina internet di questo albergo, c'è scritto il lusso di essere a casa propria. Sì, vabbè, un albergo a 4 stelle. Sì. E abbiamo controllato i prezzi. Sì. E si va con una media di 200 euro a notte, 4 stelle, potevi anche permetterti qualcosa in più. Però voglio dare un consiglio agli amici di Mediaset che ti pagano questo albergo. No, beh, amici no, miei, eccolo qua, lo sapevo io. Si può fare di meglio per far risparmiare l'azienda. Non è certamente una casa di riposo, non è un piccolo alberghetto rimediato, è un albergo di lusso. Capito? Caro Telese, capito, caro Pier Silvio? E siamo in un albergo che dichiaratamente, se voi andate a vedere albergo, sai, Le Maturin, c'è scritto, è una grande azienda quella che, diciamo, potevi far risparmiare Mediaset e la tua trasmissione, invece sei andato in un hotel di lusso. Ne prendiamo atto. Ti ringrazio per questo appello che hai fatto a alcuni dei miei datori di lavoro, ti ringrazio e vediamo se ci saranno conseguenze. Domani andrò in una pensione a una stella. Beh, dovresti essere contento. Ho avuto delle giornate terribili. Aspetta, ma che io voglio dare ragione a Sgarbi, ma su tutta la linea. Però Vittorio è collegato di nuovo, aspettiamo, che qui mi hanno massacrato su Twitter, su internet. Fra poco lo rimettiamo in onda, champagne. Merci beaucoup. Allora, no, mi hanno massacrato dicendo Sgarbi ti ha umiliato. Sgarbi ti ha umiliato perché ha detto una cazzata pazzesca. Adesso sei in linea, glielo dico. Ha detto una cazzata enorme. Cioè, devi avere il coraggio di bestemmiare. Devi avere il coraggio di bestemmiare. Se vuoi Maometto col culo nelle vignette, col culo di fuori, allora devi anche avere il coraggio. Ma che c'entra? Cosa c'entra? Chi è che sta spernacchiando? Chi è che sta scorreggiando? Chi è? Davide, vabbè. È una stronzata pazzesca che non c'entra assolutamente nulla. Io ho detto semplicemente una cosa: per me sono sbagliate le sanzioni se uno bestemmia, infatti non ci sono più, ma non voglio bestemmiare, sarò libero di non farlo. No, non è che per fare satira, e non dico che uno è obbligato a mettere Maometto col sedere di fuori, però non è blasfemia. Non è satira, è blasfemia. È offesa, e le offese in Occidente si pagano con i tribunali e non ma con le quali tribunali? Ma uno può andare in tribunale perché ma anche questa cosa per cui uno deve essere multato, come dice Vittorio. Se lui è lui la persona illiberale, non io che secondo lui dovrei bestemmiare in radio. Ma la libertà non è fare quello che ti passa per l'anticamera del cervello e offendere l'altro. Per fortuna non c'è nessun tribunale parigino che ha accusato di qualche reato le vignette. Ad esempio hanno chiuso gli spettacoli di Dédonné, questo pseudo comico antisemita che pontificava e urlava il suo odio, ieri avete sentito, chi offende Maometto deve morire. L'imam di Londra dice che chi offende Maometto deve morire. Ma che c'è? Ma nessuno è d'accordo con il ma se uno imam dice invece che è blasfemia, come dice Vittorio, non dico che è vicino a questi, ma insomma gli dà una mano. mano a questi imam, caro Vittorio. Dai una mano a questi imam. Dillo. Ma no, stai dicendo il contrario. Sono loro che hanno dato una mano uccidendo questa gente. Te l'ho spiegato. I martiri non sono per forza persone che hanno ragione. Detto. Ma se uccidi qualcuno diventa un martire. Allora uno può anche essere il più efferrato. Ma perché dovrei bestemmiare? Perché dovrebbe? Io non capisco perché tu mi obblighi a bestemmiare. Ti voglio dire questo. Santa Maria Goretti era una ragazza come un'altra. Sì. Se non l'avessero uccisa non sarebbe diventata Santa Maria Goretti. Il sangue consacra, quindi loro hanno sbagliato, hanno fatto una cosa sbagliata contro la religione di altri, però invece di avere una punizione, ho detto perfino una frustata. Sì, ma questo ho capito. Sì, ecco, sì. Tu li uccidi, li fai diventare, quindi passano dalla parte della ragione. Ma che c'entra il fatto che io sono obbligato a bestemmiare la radio, secondo te? No, siccome tu hai detto che vuoi leggere, io dico che tu, come non vuoi bestemmiare la tua religione, devi rispettare quella degli altri. Esatto. Se tu invece vuoi bestemmiare quella degli altri, bestemmi anche la tua. Ma non, non è una bestemmia quella. Non hai coraggio perché sei, tu sei ateo. Ma che c'entra? Hai paura che ti cacci. Ma non è vero, perché no? Ma perché non me la sento? Bestemmia, prova. Ma perché dovrei? Perché se non lo voglio fare? Perché? Non lo vuoi fare non perché sei religioso, no. Ma perché ti vergogni della tua ma religione. Ma non è per questo, no? Ti assicuro. Guarda, c'è un caso meraviglioso che riguarda Don Giovanni di Molière, lascialo raccontare. Ma poi la bestemmia non è satira, non è satira la bestemmia. Non è satira. Ma Australia, ma lo metto con il culo, è bestemmia. Ma non è bestemmia, è satira, è satira, non bestemmia. No, è una satira che diventa bestemmia. Adesso è diventato altrui. Tutto precisino, Sgarbi, tutto precisino. Ti racconto una pagina meravigliosa di Molière. Sì. In Molière c'è un passo dell'incontro fra Don Giovanni e il povero. Sì. Don Giovanni, sicuro dei suoi soldi, vede il povero e gli chiede l'elemosina. E siccome lui è ateo, dice al povero, sì, ti do una borsa di monete d'oro purché tu bestemmi il nome di Dio. Quello dice, no, e resiste, rinuncia ai soldi pur di non bestemmiare. Don Giovanni, per uscire da questa impasse, dice, te li do lo stesso in nome dell'umanità. Ma in quel momento si è capito che lui era più debole del povero che aveva davanti, che resisteva in nome della sua sacra religione. Vabbè, ma allora, tutta, dire, la tutta l'ammirazione, tutto il rispetto, ma che vuol dire ma questo? Dico, questo non sono io, è Molière. Dico, sì. Il problema è che ogni religione va rispettata. Come tu non bestemmi la tua, non puoi permettergli, perché Allah è Dio. E Dio come il tuo Dio, o bestemmi il tuo o non bestemmi neanche il loro. Ma non vuol dire, ma dipende in che situazione lo fai, ma Vittorio. Tu hai una trasmissione di satira, ti interessi dei cazzi degli altri, per quello che arriva. Bestemmi il nome ma di Dio. Ma se io non lo voglio fare, perché lo devo fare per forza? Ma perché devi farlo col Dio degli altri? Ma non l'ho fatto io. Io ho detto che semplicemente se tu hai un giornale satirico per prendere per il culo Maometto, lo metti perché hanno fatto un film che hanno proibito. Lo metti con il culo di fuori. Hanno avuto le loro ragioni, solo che finché l'hanno fatto potevano passare come persone che sbagliano perché hanno esagerato qualcosa. Quando alla loro esagerazione corrisponde la morte, diventano santi. Vabbè, quello ho detto, ma tu secondo te tu sei andato oltre, hai detto che queste cose qui andrebbero sanzionate, sì, perché sono blasfemie, sono bestemmie. Allora no, punisci anche la bestemmia, punisci. Ma infatti è già punita, c'è una non più. È stato un errore. Ma come un errore? Ti punisce lo stesso la tua radio, non ti punisce la legge, ma ti cacciano. Prova a farlo. Prova a scrivere sul Corriere della Sera una bestemmia nel nome di Dio cristiano, che la Madonna è qualcosa di questo. Allora è chiaro che esiste una legge non scritta oggi che ti impedisce di bestemmiare la tua religione. Questo deve valere anche per quelle degli altri, perché la Costituzione tutela tutte le religioni. Vabbè. E anche il rispetto delle religioni. Vabbè, d'accordo. Quindi rispetta anche i musulmani. Però ma non è che non li rispetto. Se bestemmiato vieni ucciso, è chiaro che tu diventi santo. Vabbè, ma questo siamo tutti d'accordo. È solo questo che ho detto. Ma poi io ho detto che da qualche parte ero reduce dalla lettura, da qualche parte ho detto che lui è stato condannato per qualche atto contro il Corano. E devono dare 1000 frustate, sono le prime 50. Allora ho detto, se limitassero a quello, non sarebbe una cosa che io approvo, ma non sarebbe morire. Hai capito? Cioè, tu prima hai detto che questo qua ha fatto pronunciare qualcuno che chi bestemmia il Corano deve essere ucciso. Quello non è tollerabile, ma che uno stabilisca una sanzione può essere sbagliata. Ma anche i genitori di una volta pacchettavano i bambini perché non studiavano. Cioè, ci sono delle misure che possono essere sbagliate, ma che si possono riconoscere norma. Ma sì, ma la io morte, no. La ma morte no, mai. Ma la morte siamo d'accordo tutti, figuriamoci, eccetera. Nessuno dice. Che volevo dire. Sì, ma ti dico, se tu leggi il giornale di oggi, lo leggo da questa lettura, un signore ha avuto non so quanti anni di galera e 1000 frustate, sono le prime 50. Ora dico, frustate, non le vorrei per nessuno, ma sarebbero la logica di una religione che si dà delle sanzioni. Ma tu sei arrivato... La sanzione deve essere la morte, come ma sei arrivato adesso arrivi quasi a giustificare... No, lui ti sta dicendo anche se per paradosso, cosa. Anche se per paradosso, riesce a giustificare non persino le frustate quando uno semplicemente fa satira su Dio. Maometto, per carità, con tutto il rispetto per le autorità civili, politiche e militari, è un'entità, ovviamente, sì, che si può prendere in giro come chiunque altro. Quando... Ma ti posso anche raccontare quando io feci la polemica con il Papa, perché io rispetto a voi le ho avute le sanzioni, io le ho avute. Allora io un giorno sono, te lo racconto forse non lo ricordi, sono ospite della Carrà, commentavo dei quadri e delle fotografie. Sì. Tu ricorderai che il Papa era pacifista, Wojtyła. Sì. Occhetto, sì, che era un povero presidario di partito, sì, si appoggiava rispetto a quelli che erano interventisti per il Kuwait, con l'Iraq, si appoggiava al Papa ed era pacifista. Il Papa sopportava ad avere questo pesante Occhetto sulle spalle. Quando finalmente finisce la guerra, il Papa, invece di liberarsi di Occhetto in un modo, come dire, diretto, lo fa in questo modo, dice: l'Emilia è terra di malattia e di morte. Io che sono emiliano dico: scusa, ma con l'autostrada tra Piacenza e Lodi sono 10 km, perché l'Emilia sì e la Lombardia no? Il Papa è un terrorista, ho detto, il Papa è un terrorista. Mi hanno chiamato, mi hanno convocato, mi hanno fatto 15 milioni di multa, mi hanno tolto la diretta. Questo è capitato a me. Allora voglio dirti... Vabbè, ho capito, ma questa qua è una roba vergognosa, che c'entra? No, ma ti dirò di più, che la satira c'è anche stata. Cosa ha fatto un giornale? Quella però non era satira, quella roba lì. No, la mia, era un'iperbole. Era un'iperbole, però sono stato punito. Ma a parte la mia punizione, cosa è capitato in quel tempo? Che il male o il satirico, forse il male, hanno pubblicato il nostro Papa con una bellissima ragazza nuda in braccio chiamata Emilia. Sì. Ed era un modo, per l'ironia, quindi è stata fatta anche la satira. Stupendo, non è che non meraviglioso. Meraviglioso, quello sto dicendo, però tu neanche quello ti permetti. Come no? Ma perché stai scherzando? Ma facciamo di tutto. Paura, ma tu facciamo paura di tutto qua. Ma che c'entra con questo con la bestemmia? Ma qui diciamo di tutto. Perché sto dicendo che uno Stato che ha una religione di Stato come la nostra. Ma non è vero, non c'è più la religione di Stato, per fortuna. C'è ancora il concordato. Beh, c'è il concordato, certo, c'è il concordato. Cosa fa? Stabilisce che la bestemmia sia un reato, poi lo toglie il reato, però effettivamente chiunque bestemmia. Ma è sbagliato, Italia, ma è comunque sbagliato secondo me anche sanzionare. Capito, chi è sbagliato sanzionare chi bestemmia. Certo, se tu vai ogni giorno in radio e pronunci una bestemmia, è evidente che non è sopportabile. Appunto, quindi però tu vedi che questo non capita, siccome la Costituzione garantisce. Ma non capita, come non capita nessuno che va ogni giorno a dire Maometto è un porco, no, quello che è, dai, su. No, no. I leghisti e gli altri da molto tempo lo fanno. Sì, i leghisti lo fanno, e infatti i leghisti rischiano spesso. No, i leghisti non vengono neanche minimamente sanzionati, perché l'offesa massima di portare un maiale su un terreno sul quale si sarebbe dovuto costruire una moschea con un maiale è insopportabile. Cioè, Calderoli fu un coglione, all'epoca. Io sono ebreo laico, ma se uno viene e mi porta un maiale davanti a una sinagoga mi incazzo, perché mi incazzo, perché ho diritto di incazzarmi. Ma certo, come che hai diritto se di incazzarmi. Uno davanti a una chiesa. Vabbè. È una questione di rispetto. Però volevo chiedere a Vittorio un'altra cosa, ma è troppo tardi, dai, è troppo tardi. Cioè, andiamo avanti, poi è bello scontrarsi fortemente. Comunque io sono stato sanzionato, 15 milioni di multe, mi hanno tolto la diretta. Quindi tu prova, adesso prova tu a vedere se ti fanno qualcosa. No, ma se io posso, ma però non sono obbligato a bestemmiare, perché tu hai preso la bestemmia come termine di paragone. No, è bene che tu non lo faccia, però non puoi dire che poi sei contento di bestemmiare non il tuo. No, ma che c'è? Gli altri non va bestemmiato neanche lui. Ma secondo me vanno bestemmiati tutti e due, tra virgolette, non con la bestemmia vera e propria, ma con la satira, con la raffigurazione, mettendo, come hanno fatto quelli di Charlie Hebdo, il trenino con lo Spirito Santo, lì la Maria. Ma questi ragazzi, io ho simpatia, non è che mi sono capito, ma dici che sono blasfemi e vanno sanzionati, vanno fermati. Prima, io sono il migliore amico italiano di Houellebecq, che mia sorella probabilmente rischierà qualcosa perché ha tradotto. Domani. Ciao, caro, domani, ciao. Said the Joker is a wanted man. Makes your way all across the land. Seems sifting through the sand. So I tell you all the story about the Joker and the thief in the night. Vergogna che Radio 24 faccia una cosa del genere. Forse la lavatina di capo a te ti farebbe bene. Allora, state attenti alle notizie, a quelle che vi arrivano, soprattutto alla sintesi delle notizie, caro Parenzo. Vi faccio due esempi che riguardano i gay e gli omosessuali. Nei giorni scorsi ho letto prima un poliziotto che avrebbe detto a due che si baciavano, beh, che non si fa così, che non devono farlo in pubblico, eccetera, eccetera. Adesso ho letto che un cuoco di Rimini, un cuoco, sì, sostiene questo: il mio capo mi ha obbligato ad andare da una prostituta per dimostrare di non essere gay. Allora, posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Non ci credo a nessuna di queste cose. Ci, no, sono, state, ci sono state denunce, alcuni le associazioni pro gay e tutto quello che ti pare. Non ci credo. Perché, beh, le stranezze. Non ci credo. Sì, certo, per carità, poi magari mi sbaglio, eccetera. Però a pelle così non ci credo. A parte che è impossibile sapere se è vero o non è vero, perché ovviamente una parola contro l'altra, no? Però ci sono due elementi. Nel primo caso, la vicenda del bacio gay, non mi ricordo dov'era il bacio, a una stazione, ma non mi ricordo. I due ragazzi che hanno poi denunciato, hanno detto che questo poliziotto avrebbe detto che non si fa in pubblico, eccetera, avevano parcheggiato nei posti riservati alle forze dell'ordine. Il poliziotto che è andato lì ha detto: scusate, non potete parcheggiare qui. O magari avrà detto anche altre cose, non lo so, ma non ci credo che ha detto che non vi potete baciare in pubblico. Avrà detto: queste cose non si fanno, cioè non si parcheggia la macchina in un posto riservato alla polizia ferroviaria, come era quel caso là. Poi la vicenda, l'altra del cuoco, no? Sollevata dalle associazioni anche qua, sì, omosessuali. Ma vi pare possibile che un datore di lavoro dica a un cameriere omosessuale: dai, forza, vai con... lo obblighi, gli può dire sì, gli può dire scherzando e sbagliando: vabbè, dovresti andare a donne, ogni tanto dovresti farti qualche scopata. Sì, sicuramente può accadere questo ed è una coglionaggine, ma non ti può obbligare ad andare con una prostituta per dimostrare di non essere gay. Dai, insomma, di che stiamo parlando, dai. Oggi Parenzo ha incontrato Grillo al Parlamento Europeo. Intanto sentiamo Grillo a Strasburgo, il quale attacca ovviamente il Partito Democratico sulla questione delle primarie in Liguria. Scena era grandiosa, però, perché c'era Renzi che parlava in aula e lui ha convocato tutti noi giornalisti nella parte del pubblico, perché non essendo deputato ovviamente, sì, lì nel logione, e c'erano tutti, e c'era la voce di Renzi e lui che commentava ogni cosa che diceva. Ma non capisce niente, c'è la povertà, il reddito più basso, ma che cazzo dice? Era tutto così, che dice Renzi giù che parlava e tutti i giornalisti su col microfono per sentire i commentini di Grillo. E che diceva? Diceva, rifallo un po', che diceva? Questo, che sei un cretino, tra l'altro. Io l'ho incontrato in ascensore, Grillo. E che ti ha detto? Che ti ha detto? Fallo prima sentire, poi ti racconto della gag in ascensore. Il Partito Democratico e i cinesi. Ma no, il PD non è più, PD non è niente, non è niente, non c'è più, è un leader senza base. Noi siamo una base senza leader, lui è un leader senza base. Non c'è più, vedi, i cinesi, portano i cinesi a votare, portano i pensionati, per l'Europa hanno portato nei ricoveri, gente che non sapeva neanche assolutamente cosa avrebbe votato. Cioè... ci sarà qualche imperfezione sicuramente nelle primarie, però dall'altra parte c'è la rete, c'è la rete. La rete? C'è la rete? La rete è la rivoluzione, cretino. Ho capito, però... Allora, la scena è questa. Sì. Lui, io lo vedo, sai, questi lunghi corridoi, lo dico per chi ci ascolta, lunghi corridoi di Strasburgo, del Parlamento, sì, Europeo, lunghissimi. Sì. Io lo vedo, dico all'operatore francese: veloce, veloce, andiamo. Lui, tutto lento, lento, mi segue, lentissimo. Mi avvicino, lui mi vede, io gli dico: Beppe, due battute. Non parlo con te, faccio per dargli la mano. Non ti do la mano, mi fa schifo quello che fate, tu e quell'altro. Non posso neanche parlarti. Entra nell'ascensore. Io, sì, mi metto davanti alle porte dell'ascensore con queste cellule, no? Sai che le porte si aprono e si chiudono. Cioè, ha detto: mi fate schifo. Comunque, la frase è questa: mi fate schifo. Mi fa schifo quello che fate. Fate, quindi mi ha accomunato anche a te. Bellissimo, capito? Bellissimo. Io ho detto: ma dai, Beppe, vai via. E mi ha tirato un bacino così con la mano: vai via, mi fa schifo quello che fate. Schifo. Però ti ha tirato un bacino anche. Sì, sai come fa lui che ti piglia per il culo? Ti ha tirato un bacino. E le porte, i suoi assistenti mi dicevano: no, Parenzo, dai, non ora, non ora, non ora. Dopo, dopo, ma dopo. Dopo quando? Ma io ho detto: quando? Dopo quando? Ando. Dopo cosa? Stringendo la mano a Renzi, sempre Grillo. Ecco perché io non ho parlato con lui, perché bastava guardarlo in faccia, sentire questa mano che ti stringe, che capisci che non arriva né dal cuore, né dal sentimento, né la forza, non c'è l'uomo lì dentro, no? Quindi io ho evitato che mi facesse la lezioncina del mio programma. Va bene, Loris, provincia di Monza. Ciao. Mi faccio quattro risate perché Garbi ti ha messo a nudo. Mi spiace, Cruciani, io ti osservo, ti ascolto, però comunque sono contento perché ha trovato il tuo punto debole. E quale sarebbe, anche scusa? Tu hai il tuo punto debole. E quale sarebbe? Non hai avuto il coraggio di bestemmiare in pubblico. Mi spiace, bene, ma siccome bene, tu ti diverti. Bene. Ma non dire cazzate, non dire cazzate, dai. Adesso devo dimostrare la mia libertà bestemmiando in radio, ma tu sei completamente fuori di testa, siete completamente fuori di testa. Hai ragione. Ma allora che ho ragione di che? Prima dici che ho torto e poi dici che ho ragione, ma deciditi. Sì, no, hai ragione, certamente, bisogna dare ragione alla gente quando non hai il coraggio di affrontare. Ma il coraggio di affrontare. Cosa? Ma tu non la trovi proprio nemmeno con l'umicino, una persona più libera di me che parla alla radio, no, capito? Non la trovi nemmeno con l'umicino, spesso. Nemmeno con l'umicino la trovi. Ti sento spesso e tagli qui spesso con gente che mai non può in quel momento trovarmi. Anzi, mi piacerebbe vedere la trasmissione di Scherzi a parte come hai reagito, perché poi dopo nella realtà ognuno di noi cambia, no? Quando uno viene punzecchiato poi da morbido diventa duro e rigide. Guarda che non c'entro niente io in quel caso, no. Quello che ha subito lo scherzo è Parenzo, non sono io. Mi piacerebbe vedere la tua reazione, mi piacerebbe vedere, adesso la guarderò nella replica, la guarderò. Vabbè. Ciao Loris, Marco, vedere. Provincia di Lucca, Marco. Marco? Sì. Dimmi, dai. Ci siamo sentiti già tante volte, ma evidentemente il messaggio non è passato. Devo parlare un'altra volta con quel nano. Mi dispiace che a Parigi, ma almeno oggi mi sente. Allora, 7 anni fa mio fratello è stato ucciso da un pirata per la strada. Sì. Questo ha avuto la brillante idea, dopo averlo ucciso, di scappare. Si è rifatto vivo 48 ore dopo. Sì. Io potrei pensare, magari per farsi passare la sbornia, chi lo sa. Fatto sta che non ha fatto neanche un giorno di galera, neanche mezzo, e quel demente di quel nano che ieri era Charlie, oggi mi dice che un anno e mezzo di galera per una foto con un fotomontaggio sulla Kang è troppo poco. Ci vogliono i lavori socialmente utili, 1 miliardo di multa, 20 anni di galera per una foto. In Italia siamo già assassini. Non è una foto, è ha ragione Marco, ha ragione Marco. Non è una foto. Aspetta, aspetta. Marco, devi. Ho capito, però se parli così non si sente niente. Per cui allora, lui è Charlie quando gli pare. Perché quando Casa Pound chiede un posto dove parlare, non lo deve avere, perché i fascisti non devono parlare. Però quando bisogna offendere tutte le religioni va bene. Allora io ti chiedo, siccome in Italia ci sono milioni di persone che dovrebbero stare in galera e non ci fanno neanche un giorno, perché tu che sei Charlie ci vorresti mandare uno che ha fatto un fotomontaggio? Se io domani faccio un giornale in Italia e lo chiamo Charlie Finocchio e tutti i giorni mi metto a prendere per il culo i gay, mi mettono in galera. La stessa cosa. No, in galera no. No, non ti mettono in galera, qualcuno vorrebbe metterti con la legge sull'omofobia, quello certo, è sicuro. Quello è come quel tonto che è lì, accanto a, che è a Parigi, mi vorrebbe mettere in galera. Quando io ti potrei parlare, perché purtroppo, visto l'esperienza che ho subito, sono dovuto diventare mio malgrado un esperto di questi casi, ti potrei fare una lunghissima lista di persone che la galera non l'ha mai neanche vista per omicidio, truffa, rapina con uso di armi. Cioè tu stai dicendo che Parenzo, quando sostiene che è giusto punire il leghista che ha fatto la foto, ha messo la foto con la testa di Chieng a forma di scimmia, è in contraddizione, eccetera, eccetera. Un finto comunista fallito che come sempre e come sempre prima di pagare. Scusami, io ho pochi minuti, tu hai tutta la trasmissione. Aspetta, ma ti sta rispondendo, voglio... aspetta Parenzo, dimmi. Voglio parlare con lui, non c'entra pochi minuti, mi può contrastare, ma figuriamoci. Primo, io ho detto che quella foto con la rappresentare la Ken come una scimmia è razzismo. In Italia esistono delle leggi per cui non è che c'è la libertà di dire qualunque vabbè, cosa. Ma ragazzi, ma razzismo non è allora non è razzismo, va bene. Ma allora che cos'è il razzismo? Scusami, se c'è una legge, ma che c'entra la satira? Anche la satira ha dei limiti, allora. Infatti io l'ho sempre detto. No, quella non è satira. Quella non è satira. Quella non è satira, quella che ha fatto il signore rappresentare. C'era, l'ho detto ieri, qui non lo ripeto, la difesa della razza. Andate a vedere che cos'era quella rivista, diretta da un signore che si chiama Almirante. Ma non c'entra, ma non puoi mettere la difesa della razza con Ranieri, con Fabio Ranieri della Lega Nord. La rappresentazione dei negri. come scimmie era una iconografia utilizzata. Ma stai attribuendo a questo signore una, certo, un ruolo eccessivo. Ma come la rappresentazione, vuoi che ti dica di più? È come la rappresentazione. È giusta la galera, tu dici? È giusta la condanna, no, un anno, aspetta, e tre mesi? Non io lo so, non dimmelo. Sono per la galera per i reati di opinione, l'ho sempre detto. Però e sei per ora i servizi sociali, sei per i servizi. Ma i servizi sociali, pulire qualche eccesso in qualche stazione centrale. Marco è a favore della pulizia di qualche eccesso, hai sentito, sì, Marco? Ma senza dubbio. Allora io ti dico solo questo: arriva un musulmano. Ma questo è un razzista, che me ne frega di questo qua? Ma questo è un razzista schifoso. Ma hai detto che sei un razzista. Ma è un razzista schifoso. Fammi parlare. Sei un razzista schifoso, che me ne frega a me di quel che dici? Fammi parlare. Non è che si parla con tutti per forza, Capo, posso parlare? Sì, vai. Allora, arriva un musulmano e ti dice: io voglio che mia moglie venga fotografata con il velo. Ci sono delle leggi in Italia, no? Appena lui dice questo, arrivano dei dementi falliti come te, che prima erano di Rifondazione Comunista, oggi sono di Serra, come cazzo. Ti pare che dicono? Ha ragione lui. Ha diritto lui a farsi fotografare la moglie col velo, perché noi dobbiamo sapere. Lui vuole un menù diverso a scuola per il figlio. Ha ragione. Allora, quando tu a una persona gli dici questo e gli dici: chiunque non è d'accordo con questo pensiero unico è razzista e fascista, tu gli hai detto un male il mitra, perché sei tu per primo istituzione italiana che gli hai detto che questi, vabbè, sono diritti inalienabili, e quando lui li vuole, li pretende, ti spara. E come ti ha detto l'imam di Londra, ha fatto bene, e noi invece di prenderlo a calci nel culo lo teniamo lì. L'imam di Londra, guarda che sei talmente stupido che hai fatto anche un esempio sbagliato. L'imam di Londra, che giustamente Cruciani ha fatto risentire da Piazza Pulita, dimostra solo una cosa: che a Londra ancora, purtroppo, esistono delle libertà diverse dalle nostre. C'è ancora a Londra, nonostante il terrorismo internazionale, sì, certo, un signore che si chiama imam, e non mi ribatte la pesca, che dice quelle cose, le dirà mica soltanto alla televisione italiana, immagino che le dica anche alla BBC o in qualche altro stracazzo da bellette in televisione inglese, può continuare a dire quelle cose, non so ancora per quanto, ma quel signore lì, che sicuramente, sì, non è figlio di Einaudi, a Londra può dire quelle ma questo cose. Che c'entra? No, c'entra per dire che purtroppo, vedi che anche l'Europa ragiona diversamente. Londra ancora non ha fatto una legge per contrastare chi incita la violenza e all'odio, come fa quell'imam. Io non lo difendo quell'imam. Quell'imam va preso, sbattuto o nelle patrie galere inglesi o rimandato a casua, come dicono a Milano, a casua. Allora, apprendo dai giornali che una serie di ex consiglieri regionali, e non solo consiglieri regionali, anche deputati, hanno fatto ricorso per il taglio del 10% del vitalizio. Ai vitalizi il ricorso di 54 ex consiglieri. Tra questi 54 ex consiglieri che non vogliono ridurre il loro vitalizio del 10%, c'è anche un signore che si chiama Mario Capanna, leader del movimento studentesco, è stato poi segretario di Democrazia Proletaria, adesso si è messo a coltivare, fa una vita tutta diversa, eccetera eccetera. Capanna, buonasera. Ma fatemi capire, a parlarmi è quel giovane reazionario di Cruciani? Sono io in persona. E reazionario, bisogna vedere da che punto di vista. Secondo il suo punto di vista, sarò anche reazionario di destra, quello che è. Secondo me, sono un grande libertario. Che è il reazionario Cruciani. Io sono invece un grande libertario, come dire. Allora, cosa voleva sapere da me? Allora, volevo sapere, avendo letto oggi questa notizia, qualcuno ha commentato. Capanna è partito contestando il mondo e finisce col contestare la riduzione del vitalizio. Come al solito, sciocchezzina. Beh, sciocchezzina, insomma. Ma perché? Attenzione. Il problema non è i 100 o 200 euro di decurtazione. E cos'è? Il problema è che se malauguratamente non ti venisse data ragione al tribunale amministrativo, si avrebbe un precedente micidiale che riguarderebbe milioni di pensionati e di lavoratori. In che senso? Vale a dire che è lecito intaccare i diritti acquisiti, che non sono privilegi, no, però, sono, scusi, diritti, sono diritti costituzionalmente garantiti. Dicono tutti così, dicono no, tutti no, così. No. Lei, allora, lei da buon, la posta da buon in gioco, ex... La posta in gioco, deve essere chiaro a chi ci ascolta che la posta in gioco è questa. Insomma, per scusi, lei quanto prende, quanto prende di vitalizio? Lei? Io la casta la combatto dal 17 novembre 1967, addirittura. Cioè dalla prima occupazione della Cattolica. Adesso possiamo andare avanti. Benissimo, lei dice di combattere la casta, le dice che in gioco sono i diritti acquisiti, che in gioco sono i diritti acquisiti, che dunque potrebbero colpire se passasse questa, come dire, questa riduzione eccetera anche i poveri. Certo che il TAR ci darà ragione, su questo non ci può essere. Allora, ma lei quanto prende di vitalizio? Perché lei prende due vitalizi. Cioè sono meritati. Quello 2.200 euro netti dalla Regione Lombardia e quasi 3.000 euro netti dal Parlamento per due. Cioè lei prende due legislature e quanta? Aspetti che le do una notizia. Mi dia una notizia. Io avrei diritto a un terzo vitalizio, quello di parlamentare europeo. Sì, quanto ha fatto? Non ce l'ho. Ma quanto ha fatto come parlamentare europeo? Una legislatura. Secondo lei è giusto che uno dopo una legislatura abbia un vitalizio? Rinunciai deliberatamente a pagare i contributi perché con quei piccoli soldi, maledetti e subito, finanziavamo l'attività politica di Democrazia Proletaria. Ma erano sempre soldi nostri, voglio segnalare. Sono l'unico europarlamentare ad aver fatto questa scelta, questo per la precisione. No, ma certo, d'accordo. Io però, scusi, signor Capanna, il punto fondamentale è questo. Lei prende circa 5.000 rotti euro di pensione per aver fatto alla fine tre legislature in tutto, giusto? Tre legislature tra Parlamento italiano e Regione. In tutto abbiamo fatto 15 anni, come una cosa del genere. E lei prende oltre 5.000 euro netti di pensione, 9.000 errotti lordi. 5.000 euro netti di pensione. Ma non le pare un po' troppo? Non c'è ombra di dubbio, rispondo con la consueta sincerità. È ovvio che rispetto alla metà circa dei pensionati italiani che vivono con 1.000, che sono costretti, vabbè, quello rispetto a quelli non c'è dubbio, ma in generale mille, è troppo, o meno di 1.000 euro al mese. Va bene, d'accordo. Non c'è dubbio che è una cifra elevata, ma allora il problema qual è? È di portare in alto le cifre più basse. Vabbè, ma quello non quello... passare per invidia quelle più alte. Ah, no? Cioè, secondo lei togliervi il 10% è un'operazione di invidia? No, è un'operazione lei l'ha detto. Incostituzionale. Vabbè, quello lasciamolo decidere a chi lo deve decidere. No, vorrei dirle che lei anche stia attento, perché adesso è relativamente giovane. Se il TAR ci dovesse dare torto sulla questione di principio, lei stesso sarà sottoposto al taglieggiamento della sua pensione quando l'avrà. Ma il taglieggiamento, le chiedono, scusi Capanna, lei che è uno... Dal punto di vista della ma logica, sì, ma sarà anche, giusto dal punto di vista logico e forse anche dal punto di vista giuridico il ricorso. Cioè, non li ha rubati? No, ma mi fa specie, ma certo che non li ha rubati, che vuol dire... Ma certo, ma nessuno dice che li ha rubati con la mascherina. Beh, è da qualcosa. Ma ho capito, Capanna, però non c'è solamente la rapina con la cosa. Anche quelli che prendevano la pensione con un altro metodo più vantaggioso possono essere considerati, diciamo... Dai, diamoci del tu come si fa tra bravi lottatori. Certo. Ragioniamo un attimo, no? E quando uno... Lei dice che è un taglieggiamento. Il 10% che le vogliono togliere è un che ti vogliono togliere. È un... Quando uno dedica tempo, diciamo, per l'attività legislativa e parlamentare, ovviamente interrompe un proprio lavoro, ci impegna una fetta consistente della propria vita, e il patto è che una volta che viene eletto o al Consiglio regionale o al Parlamento europeo nazionale, il patto è che per quella cosa vieni, tra virgolette, remunerato. Sì. Però scusami Mario, il vitalizio, che detto così suona molto male, è semplicemente una pensione per il tempo che tu hai dato. No, ma c'è un altro elemento, ci sono persone che poi prendono anche la pensione per il lavoro che hanno fatto precedentemente, per cui non è quello il punto. Il punto è che, a parte che queste pensioni hanno sempre calcolate con dei metodi molto molto vantaggiosi, come lei sa bene, quelle che prende lei da parlamentare italiano, quelle che prende lei da ex consigliere regionale della Lombardia. Ma non l'ho mica fatta io. Ma ho capito, ma se le chiedono, certo che non l'ha fatta lei, sicuramente non si è battuto per cambiarla, su questo non c'è dubbio, nonostante il fatto che si battesse per delle ingiustizie, contro le ingiustizie, a favore, sicuramente non si è battuto per cambiare questa cosa, che è profondamente ingiusta, perché lei, con meno soldi di quelli che versano gli altri, prende una pensione più alta. Adesso ci fermiamo e torniamo dopo la pubblicità, perché su questo l'ho messa un po' all'angolo, caro Capanna. piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Un mondo così fa cagare. Questo era Marione Adinolfi, che è uscito col suo quotidiano La Croce. La Croce, che prossimamente, non vi diremo quando, sarà qui alla Zanzara a combattere su tutti i fronti: omosessuali, chiesa, islamici. Oggi ha fatto un titolo assurdo in questo primo numero del quotidiano La Croce, che ricorda quello francese La Croix, caro Parenzo, dato che sei in Francia. E il titolo era: ci vuole un presidente cristiano. Ma dai, su. Ma non c'è dubbio, ma è una follia assoluta. Ma ci vuole totale, un presidente cristiano. Ma è Marione Adinolfi, al quale vogliamo molto bene. E come dire, auguriamo tanta fortuna. Dopodiché, laicité. Ma non è questione di laicité, lascia perdere la laicité, quello è chiaro. Io sono ateissimo, non è quello il punto. No, io non sono ateo per niente. Vabbè, ma lascia perdere. C'è una differenza tra ateismo e laicità, ovviamente, ma non andiamo su massimi sistemi. Il punto fondamentale è questo. E ci vuole un presidente cristiano, ci vuole un presidente della Repubblica che decidono i partiti politici in Parlamento, come è normale che sia, con tutti i limiti del caso. Ecco, con tutti i limiti del caso, questo è quello che ci sarà. Ma siamo in realtà con Mario Capanna, protagonista, come sapete, del 68, il quale prende un vitalizio, secondo le norme vigenti ovviamente, che però dice di battersi per evitare la riduzione del 10%, non per se stesso, perché non credo che gli faccia differenza prendere non so quanti euro in meno, qualche centinaio di euro in meno, ma di battersi per noi. E quello che mi colpisce della sua ricostruzione, della sua posizione, caro Capanna, lei dice sostanzialmente che si batte per noi. Che vuol dire? Vuol dire semplicemente, come ho già cercato di spiegare, che se malauguratamente il tribunale amministrativo non ci desse ragione, vorrebbe dire che da quel momento tutti i diritti acquisiti di milioni di pensionati, di milioni di lavoratori, potrebbero essere sforbiciati esattamente come... Ma scusi, Capanna, i diritti acquisiti non sono una cosa, non sono la Bibbia, che pure è contestabile. Erga omnes, verso tutti. Cioè lei sta dicendo: io mi batto per gli altri. No, io sto dicendo un'altra cosa. No, quello ha detto, mi batto per gli altri. Che in questo modo stiamo constatando il livello a cui è ridotto il giornalismo. Cioè? E non è, sia chiaro. Mo la colpa è dei giornalisti. Non è una critica alla Zanzara. Ma non è quello il punto. Ma perché fa audience, titilla la pancia delle persone, dice: ah, quelli sono privilegiati. Noi abbiamo un paese dove c'è la più alta disoccupazione giovanile in Europa. Vabbè, ma questo che vuol dire? Dove metà dei pensionati sono costretti a vivere con meno di euro al mese. Bene, d'accordo? Sì. Non c'è una politica degli investimenti, non c'è una politica di difesa e di rilancio del lavoro. Ma usiamo la questione cosiddetta... E la colpa di chi è? Dei giornalisti che toccano questi argomenti? Della politica, come la focaccia di Cerbero da dargli in pasto per farlo addormentare. Intendiamo... un uomo di cultura, no? Ricordi cosa diceva Virgilio della focaccia di Cerbero? Sì. Diceva che era composta da miele e erbe soporifere. Sì. Esatto. Quindi continuando a parlare di queste minchiate. Ah, sono minchiate. O di queste pirlate, come si dice a Milano, d'accordo? Evitiamo di parlare degli altri. No, però Capanna, allora scusa. No, ma Capanna, io veramente vado ai matti per questa cosa. Allora, qui c'è, giusto o sbagliato che sia dal punto di vista giuridico, si chiede a quelli che prendono i vitalizi, non le pensioni, i vitalizi è un'altra cosa, per avere lavorato al Parlamento italiano, vitalizi che sono già eccessivi, perché lei se un lavoratore normale versa i soldi che ha versato lei, non prende la stessa pensione. Sono eccessivi secondo te? Sono stabiliti dalla legge, secondo ma non è che tutte le leggi vanno bene, vi siete fatte le leggi per darvi le pensioni più alte. Chi è che le ha fatte quelle leggi? Chi è che ha fatte quelle leggi? Pure lei le ha fatte quando era alla regione o era al Parlamento italiano, pure lei ha contribuito. La questione ridotta all'osso qual è? No, la questione è che lei potrebbe tranquillamente rinunciare al 10%. Rinuncia al 10%. Parlamentare, ho fatto il consigliere regionale. Vabbè. E adesso dovrei fare il barbone. Ma come il barbone? Come il barbone? 10%. Tu mi avresti telefonato dicendo: il barbone Mario Capanna che cosa fa? È così? Ma perché chi guadagna 1200 euro che è un barbone? Non ho capito. No, appunto, sto dicendo questo. Ma nessuno ti vuole ridurre a un barbone, Mario. Ti vogliono levare 100-200 euro, cioè rispetto a quello che alla cifra alta. A me non importa nulla, perché non è quello il problema. E qual è? Il problema sono gli altri. E non il dito che la indica. Anche questa cosa è incredibile. Il problema è che se il TAR non ci desse ragione, sì, e la darà sicuramente, sì, si aprirebbe una frana per cui le pensioni, gli stipendi, ma... i lavoratori impiegati, eccetera, potrebbero essere sottoposti a qualsiasi taglieggiamento. Ma non è vero, non è così. Ma non è così, ma non è vero, ma non è vero, non è così. Parenzo, pure secondo Parenzo è così. Certo che tra gente di sinistra vi intendete bene, vi intendete bene, gente di sinistra vi intendete bene. Fate la rivoluzione, annunciate la rivoluzione, la rivoluzione, la contestazione contro il mondo e poi finite a contestare il 10%. Un'altra considerazione da fare. Per proseguire nella metafora, aspetta, Mario, proseguire nell'immagine di Mario Capanna, tu sei Cerbero che contre gole caninamente latra e latri caninamente perché in realtà con fondetta sinistra non c'entra una beneamata fame. Ma come no? Nel caso di Capanna c'entra, no, come? Nulla. La, i diritti non è che riguardano i diritti. Capanna, ma se, o, ma, o ragazzi, un deputato dell'estrema destra, non esistono i diritti acquisiti. Si può cambiare tutto per fortuna nel mondo, altrimenti non ci sarebbero le rivoluzioni. Assolutamente no. Amici miei, questo è contrario a ben precisi articoli della Costituzione, nonché alla normativa europea. La normativa europea. Documentatevi però prima, Mario, di parlare, tu, no? per non farti ridurre il 10% i tuoi due vitalizi, due vitalizi, ti appelli alla Costituzione. In questo modo tu corri il rischio di avere le parole più veloci del pensiero. Abbiamo detto, precisato quattro volte, che non è questo il punto. Il punto è una questione di principio che interessa la totalità dei lavoratori. Ma se prima mi hai detto, d'accordo, quello l'hai detto, ma se prima mi hai detto, scusa, prima però ti contraddici, perché prima mi hai detto mi vorresti sotto un ponte, cioè mi vorresti come un barbone, cioè No. Ho detto che uno che ragiona come te probabilmente godrebbe se io fossi un barbone. Per fortuna non lo sono. No, ma vuoi dire che sei un privilegiato? Lo vogliamo dire, sono un privilegiato perché in vita mia non ho fatto diciamo granché. Perché ho riconosciuto una pensione in seguito a un lavoro fatto. Ma non ora è. Stiamo attenti perché in politica la democrazia. Cioè, non ti un senti costo. Un privilegiato? No. Non ti senti un privilegiato? Io sono perché chi ha rubato, chi ha fatto. Ma quello che c'entra? I rimborsi gonfiati. Vabbè, quello sono dei criminali che vanno combattuti. Esatto, sia non solo punito, ma vabbè, mandato a casa. Vabbè, d'accordo. Ma stiamo attenti a non criminalizzare tutti quelli che hanno fatto o fanno politica. No, ma ti senti un privilegiato o no? Tutti sono ladri, santo cielo. Ti senti un privilegiato o no? Sì. Assolutamente no. Non sei un privilegiato. Ma perché? Ma per quale ragione? Ma perché gli stessi perché i vitalizi. A parte che io abolirei tutti i vitalizi. I vitalizi sono sbagliati. Pensioni, no, non sono delle pensioni. No, perché ci sono persone che prendono le pensioni. Sono una forma di previdenza esattamente come la pensione. Leggiti il regolamento della Camera dei Deputati. Ti ripeto, per tanti anni adesso le cose sono un po'. Vedi che quanto dico risponde a realtà. Adesso sono un po' cambiate le cose, un po' cambiate. Prima tu versavi una cifra minima, prendevi la pensione molto prima. Tra l'altro avete fatto ricorso pure per anticipare a 60 anni il ricevimento. No, come no? Altra informazione errata, perdonami. Dobbiamo essere precisi, no? Beh, quello, uno, la parte del ricorso è su questo. Io ho preso il vitalizio della Regione Lombardia a 60 anni, successivamente l'età è stata spostata a 66, ma questo è un altro ordine. Appunto, ma che è sbagliato, che è giusto. E questo riguarda i futuri. Ma alcuni ricorsi che ci sono anche per riportarla, per prenderla a 60, perché alcuni sono andati in pensione prima della nuova legge. Vabbè, comunque, non è il caso di questo ricorso. Comunque, firmato la cosa curiosa. Ah, tra l'altro, no, un momento. Dimmi, ma sapete che tra i 54 firmatari c'è Giuseppe Guzzetti, il potente presidente della Fondazione Cariplo? Ma va benissimo. Ma perché non rompete le scatole? E adesso rompere i coglioni anche lui. Io dico, tu dici le scatole, io dico i coglioni. Non ti preoccupare. Vi ho dato una dritta così, dai. Ma assolutamente, rompere i coglioni pure a lui. Ma tu, voglio dire, combatti e sostieni le tue idee. Per questo mi piaci. Hai fatto incazzare un sacco di gente su Twitter e sul web con quello che hai detto. Ma va benissimo. Benissimo. Quando tu dici non sono un privilegio. La dialettica, no? La dialettica è il fermento della ragione. Ciao, a presto. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Il 10%, ricorso a tutti gli organi militari, civili, religiosi per evitare, sempre a favore degli altri, sostiene Capanna, per evitare il taglio del vitali. Vabbè, lasciami, mi fa incazzare troppo questa cosa. Barbara Milano, Barbara. Oh. realtà siamo da Cinisello, vabbè, Cinisello Balsamo, comunque in provincia di Milano. Che succede? Ah, Cinisello Balsamo, sì. Sì, sì, sì. Ok, no, io volevo parlare invece dello scherzo fatto a Parenzo ieri sera. Sì, sì. A me ha dato veramente tanto fastidio. Ma che cosa? Che si sia usata l'immagine di Riccardo da Roma in questo modo becero e volgare, cioè proprio mi ha fatto schifo. E io, conoscendo Riccardo, tra l'altro faccio parte di due gruppi, sia Riccardo da Roma Fan Club che Tipi da Zanzara, cioè mi ha dato, sì, che no, c'è? David, veramente mi ha dato fastidio, perché hanno dipinto Riccardo, no, puoi ascoltarmi un secondo per cortesia, hanno dipinto Riccardo come praticamente un volgarotto, uno da strada che fa risse, cioè, non è prego. Del circolo Pitwee. No, è sicuramente non dei Lions e neanche dei Rotary il signor Riccardo da Roma. Guarda che lui lavora esattamente come me, come te, come Cruciani. Vabbè, adesso non facciamo l'idolatria, capisco adesso che tu appartenendo no, io sono amica di Riccardo, cioè, e lui non è assolutamente così. Ma non parlo di Einaudi, è Riccardo da Roma, chi se ne frega. Guarda, non che è non è che se uno parla di Panza in maniera viscerale allora un becero cretino. Ma cioè, uno può anche cretino, parlare in maniera vigorosa. Ma è un salame, becero. Ma cosa? L'hanno dipinto così, Davide, l'hanno dipinto così. Di Cruciani. Hanno voluto dare un'immagine di Riccardo, di un volgare pezzo di cretino che va a far rissa sugli autobus, dove cavolo eravate? Madama, per favore. L'immagine di Riccardo? Ma sì, perché comunque è una persona seria. Ma perché che non era, non era Riccardo quello? Non era Riccardo da Roma? Ti prego, dai, ma siamo seri. No, ti prego, ti prego, ti prego. No, no, no, non era fatto lui. Ma lui, secondo me, no, cioè, tu mi stai dicendo una cosa, che ieri sera, durante il servizio delle Iene, perché ricordiamo, se no altrimenti parliamo del nulla qui a tutti gli, tutti gli ascoltatori. Allora, ieri, durante la trasmissione, le Iene presentano Scherzi a parte. Questo era il titolo ufficiale della trasmissione. Insomma, era Scherzi a parte presentato e realizzato dalle Iene. C'è stato uno scherzo, è andato in onda uno scherzo realizzato un anno e mezzo fa a Parenzo, con la mia complicità, eccetera eccetera. Parenzo, che di solito adesso non lo prende più, prima prendeva sempre ogni tanto lo prende, prima lo prendeva più frequentemente un torpedone da Siena. Lo prendo ancora, sì, però meno frequentemente rispetto a prima. Prima la Madonna, il torpedone, manco mia nonna, vabbè, dai. Vabbè, ho capito, il torpedone, perché lei cosa va con la limousine? Solo io vado col torpedone. Madonna mia, il torpedone trovi quella gente lì, lei e quegli adorati membri, e la parola membri non è usata a caso, di come vorrebbe lei, Riccardo da Roma Fan Club, per cui lei telefona non indignata per le vignette su Maometto, ma perché, ma dobbiamo parlare solo delle vignette di Maometto, dobbiamo parlare solo di cosa vuoi tu. Aspetta, vogliamo parlare solo di quello che vuoi tu. Adesso me lo dici tu di che cosa devo parlare, mi dici tu. Come lotta, come lotta Barbara, un attimo, fermo, ferma, ferma, resta lì, cazzo, resta lì, ferma, pubblicità, ragazzi. Però chiariamo alla gente, al popolo che ci sta ascoltando, di cosa parliamo. C'è un club su internet che si chiama Riccardo da Roma Fans Club, grandi ascoltatori della Zanzara. C'è Parenzo che ha subito uno scherzo, c'è questo signore che è Riccardo da Roma, che è diventato un personaggio radiofonico e anche adesso un personaggio televisivo. E mi state dicendo, Barbara da Milano mi sta dicendo, che in realtà nello scherzo realizzato dalle Iene non è vero, non è, sono, Riccardo da Roma non è il vero Riccardo da Roma, giusto Barbara? Amici miei, siamo al top, siamo veramente al top. Ti prego. Allora, c'era Barbara da Milano sullo scherzo subito da Parenzo, Barbara che fa parte di questo fan club Riccardo da Roma. E Tipi da Zanzara, voglio sottolineare Tipi da Zanzara. Che c'entra Tipi da Zanzara, scusa? Ma senti, comunque una pagina fan club a sostegno della trasmissione radiofonica. Ah, beh, certo. Non è che ce ne vai a perdere, mi pare, no? No, ma che c'entra, scusa, non ho capito. Ma che lo volevo dire? No, ma che c'entra? Ma è chiaro che è un fan club della Zanzara, non è fan club di Francazzo da Velletri, cioè questo è scontato. Comunque, vabbè, lasciamo perdere. Non ho capito, Barbara, una cosa. Dai, tu dici, gente disturbata, dai. Come gente disturbata, ma non offendo. Ma cosa stai dicendo? Barbara, vai, risponditi, per favore, dai. È gente disturbata. Mamma mia, ma guarda che tu mi stai anche simpatico, se proprio la vogliamo dire tutta. Cioè, quindi non ha neanche da che litigare con me. Cioè, perché avresti da litigare con me? Mi ha soltanto dato fastidio questa cosa, visto che io sono amica di Ricky e che lo conosco, mi dà proprio fastidio che sia stato dipinto in questo modo, proprio da volgare, cafone. Ho capito, ma è uno scherzo, tu stai attacchi le Iene adesso perché hanno dipinto Riccardo, ma non è una divinità, ma non è una divinità. Hanno usato questa tua immagine, hanno usato un ritardato deficiente che va in giro ad attaccar briga con la gente che chiama al telefono, hanno usato la sua immagine. Ma dai, Adesso Cruciani che va in giro a far la pipì come cani e sei contento. Beh, io diciamo ho una esposizione pubblica leggermente superiore a quella di Riccardo da Roma, che pure ammiro. No, non me la tiro, la realtà, dai. Excusez-moi, madame, rimettiamo un attimo a posto, madame, in 30 secondi. La chiesa al centro del villaggio, come si dice? Rimettiamo solo in 30 secondi a posto le cose. Sì. Uno, di che stiamo parlando? Parte le Iene, programma satirico. Due, Riccardo da Roma, un signor nessuno, diventato famoso semplicemente perché alla Zanzara, condotta dal Cerbero malefico, Mangiafuoco Cruciani. Per cosa sei diventato famoso? Ma vogliamo parlarne di per cosa sei diventato famoso tu? Ma non è Winston Churchill, che potrebbe anche essere sbeffeggiato. Ma Teresa di Gallura, ma pensa a te. È uno stronzo che si chiama Riccardo da Roma. Uno stronzo, hai detto. Uno stronzo, ha detto. Uno stronzo che dice volgarità. Perché se no ti parla pane, pane, vino e vino, è stronzo. Ti deve solo fare il cane da lecca, invece. Ragazzi, il cane da lecca è stupendo. Il cane da lecca, il sì, cane da lecca. Se va vabbè, ragazzi, prima la gente se no non capisce. Allora, ma di che parlate? Vabbè. Ma è allucinante che una chiami per difendere Riccardo da Roma, che sarebbe stato manco fossero le vignette del profeta. Lui no. Lui no, ma che ne sai com'è? Giorni a radio televisione, no? Perché lui fa l'ospite fisso in tutte le trasmissioni che no, lui Parenzo, a parte che non fa mai l'ospite fisso, ma Riccardo da Roma. Lo conosci? Sì. Com'è? Lo ami? Ma no, io lo ami. Sono felicemente fidanzata, ci mancherebbe altro. Beh, peccato, avevi una bella voce. Ciao Barbara, ciao. Marco Perugia. Buonasera. Vai Marco. Io sono incazzato nero, io vi querelo perché ho le coronarie a mille e per poco, giuro, per poco non investo un pedone oggi. Perché? Che è successo, Riccardo? Riccardo, scusa, c'è un testo. Cieco se non è vero, Marco. Cieco se non è vero, stavo per investire un pedone in via Mario Angeloni. Ma io devo sentire Mario Pattapanna? Ma che mi viene a parlare di diritti? Ma di qual cazzo di diritti parla lui? 5.000 euro sono tanti, ma bisogna portarli tutti a 5.000 euro. Ah sì? Però quando parlava di tassare chi lavora, allora bisognava togliere ai poveri, ai ricchi, per dare ai poveri. Allora torniamo a quel bip per dare a chi sta per strada 450 euro al mese di pensione. Ma di che parla i diritti? Ma fa un cazzo di diritti! Ma quali diritti? I diritti acquisiti? Vado a parlare con gli esodati! Ma avevano i diritti loro? Vai. Non hanno i diritti? Ma cos'è che ti ha fatto incazzare? Sta parlando questi cazzo di onorevoli! Ma tutte queste ore di diritti! Poi si fanno i regolamenti europei! Guarda caso i regolamenti europei che fanno comodo, e tutti gli altri? No, ma il bello è che poi queste leggi, se le sono fatte loro, perché lui è stato al Parlamento. Ma tu parla di problemi, c'ho una rabbia che non mi vengono neanche le parole. No, ma adesso ti faccio venire ancora più rabbia, perché Parenzo difende Capanna. Parenzo interessi. Vabbè, lascia perdere Parenzo. Perché? Come lascia perdere? Sta qua che lascia perdere. Conflitto di interesse. Quando le leggi dei cazzo gli pare a loro. Capito? Allora, se questo ascoltatore si calma. E loro invece vanno avanti e fanno le leggi che gli pare. Capito? Solo loro hanno i vitalizi che si accumulano, il governo. Ma dico, ma il presidente della Sicilia, il governatore guadagna più di Obama. Cazzo, la Sicilia, quanti abitanti ha la Sicilia? 5-6 milioni? E che faccio? Ha una responsabilità superiore a Obama? Allora? Ma dico, ma questa la fanno loro la legge, chiaro? Certo. Parenzo? Parenzo? Allora, questo qui fa una confusione come al solito bestiale. Sulla Sicilia ha ragione, sugli sprechi ha ragione. Cosa c'entrano i diritti acquisiti? Ma basta, siano questi diritti acquisiti, è una buffonata! I diritti acquisiti, quando siano sono delle... Siano essi degli esodati, siano essi... Ma per te va difeso qualsiasi cosa è stabilita dalla legge, va difesa a tutti i costi, anche no. Se... E allora che vuol dire dipende, diritti acquisiti? Che vuol dire? Un abominio non va difeso e la ma legge che c'è? Ma chi lo decide se è un abominio? Qui io non si... penso che sulle pensioni si parla di diritti acquisiti, peraltro. Ma qui non sono pensioni, sono i vitalizi, è un'altra cosa, non sono le pensioni della gente normale, sono i vitalizi a cui, perché sono stati dati con grandissima generosità a chi versava i contributi. Cioè, se tu infatti hanno fatto una legge per cui oggi non è più così. Ma se adesso chiedono a quelli che in realtà prendono i soldi adesso, chiedono una riduzione del 10%. Ti prego, seguimi. Oggi hanno fatto una legge per dire che anche i parlamentari andranno in pensione come noi poveri cristi con lo stesso sistema contributivo? Risposta sì, che ne dica tu, quello allora, che ha chiamato per sostenere Riccardo da Roma e Riccardo da Roma. È così, hanno fatto una legge per cui oggi i parlamentari, per fortuna, vanno ma in pensione. Ma che c'entra questo? Non ho capito, che c'entra? Sul passato, intervenire sulle super pensioni d'oro, giusto, giustissimo, mettendo... Senti, Capanna ha detto una cosa tremenda, ha detto che vogliono taglieggiare, ha detto che ha fatto però, capire... Ma è vero, nel caso di Capanna... Ha detto che non è un privilegiato, dai, delle cose insopportabili, ma dai. Un privilegiato, non è un privilegiato. Luca da Treviso. Ma quello è uno Marco, comunque... gli vuoi rispondere ancora, Marco, per favore? L'auto blu, gli autisti... Questo ma quale autista, Capanna? Ma... E poi la notte si rimettono, si tolgono, si ricuscia, si taglia, si ricama, zitti zitti come i ladri, di notte, senza giornalisti che stanno lì a guardare, perché prendono i soldi dallo Stato, perché si sa che la stampa da sola i giornali non... Vabbè, ma adesso che c'entra davanti questo? Dai, Marco, sta andando oltre. Luca Treviso, Luca. Buonasera, volevo esprimere la mia solidarietà a Capanna, che poverino, 10% immagino che lo renda barbone. La verità è che quando si parla di loro, dei politici, i diritti acquisiti sono sempre una cosa intoccabile, mentre quando si parla degli italiani, i diritti acquisiti non esistono. Bravo. Mio padre che è esodato, il diritto acquisito non ce l'ha, non ne vale per lui il diritto acquisito. Per il signor Capanna invece sì. Bravo, forse, bravo. Non si ricorda, forse prende ma Capanna probabilmente, per stupidi, Capanna probabilmente difenderebbe anche tuo padre, vuole difendere anche tuo padre. Il punto, ripeto, è che L'ha fatto bene, si vede che l'ha fatto bene visto il risultato. Parenzo? Ci prende per coglioni, pensa che siamo degli stupidi gli italiani. No, ogni volta che si tocca loro sono ma i loro acquisiti. I politici, ogni volta che si tocca con loro, perché anche qui stai dicendo una stupidaggine, mentre, non è i politici. Gli italiani i diritti acquisiti non ce li hanno. Ma scusami, giusto? Magari un... La realtà è che l'egoismo regna sovrano, e loro che possono difendersi e farsi le leggi per loro se le fanno. Allora, mentre quando tocca Capanna, la pelle degli altri, no, se ne sbattono i coglioni. Questa è la verità. Mario Capanna, che l'ha fatto tanto arrabbiare, oggi non conta niente, cioè non è che fa leggi nuove o può influenzare. Vabbè, allora che so che c'entra, basta la posizione che ha, basta la posizione che ha per definire la persona. Capanna basta ha la posizione che ha. Capanna ha lavorato per alcuni anni, ha fatto in modo assolutamente legittimo politico e si prende la sua pensioncina, che non è... Ma non è una pensioncina, sono 5.000 euro al mese per 3 legislature. Ti rendi conto che è eccessiva questa cosa qua? Che io cancellerei 3 legislature, vuol dire almeno 25 anni, no, di lavoro. 15 anni, sì, 15 anni, dai, su 5.000 euro al mese, ma dai, su, proporzionalmente è paragonabile a tutto il resto degli italiani. Dai, erano dei privilegiati per quello che hanno fatto, dei privilegiati assolutamente, e lo continuano ad essere e non vogliono rinunciare neppure al 10% di questo privilegio. Vergogna, vergogna. No, scusami, è evidente che il parlamentare ancora oggi prende un sacco di soldi. Questo è evidente. Io sarei per abbassare lo stipendio dei parlamentari, ma rimettere ad esempio il finanziamento pubblico. Vabbè, ma adesso stai andando su un altro discorso. Massimo da Bologna, dai. No, ma è importante. Massimo, invece, è importante, tutto è importante. Massimo, Bologna. Ma tutto no. Buonasera. Massimo, dimmi. Relativamente. Io sono un medico. E sinceramente, guarda, sono veramente schifato da sentire questa gente qua che mi parla di diritti e di privilegi. Io vorrei chiedere, e spero che un giorno nella mia vita mi succeda di poter parlare a quattro occhi con questa gente e chiedere, secondo loro, visto che loro fanno questi mestieri, tutto quello che gli pare, quando tu hai sotto, sei in medicina d'urgenza, hai una persona sotto che devi secondo loro... quanto dovremmo guadagnare noi rispetto a loro a livello di responsabilità? e sta attento. Io non è che voglio chiedere e dire che io devo guadagnare più di loro, ma questi però non possono venirmi a dire di guadagnare sta barca di soldi, di parlare di diritti, di privilegi. No, no, ha detto, non, il bello è che quando uno chiede ti senti un privilegiato, dice no, io non sono un privilegiato. Ma questo hai capito? E cioè, questo è il punto che mi fa incazzare. Qualcuno dice, guarda, sì, sono un privilegiato, mi sono costruito le leggi perché fossi un privilegiato, ho scoperto dopo di essere un privilegiato, è una cifra eccessiva. Beh, vabbè, se mi tolgono il 10%, come no, certamente non si è battuto per cambiarle, e se mi tolgono il 10%, pazienza, camperò lo stesso perché ho preso un sacco di soldi fino adesso. Uno dovrebbe dire così, invece no, ricorso al TAR, alla Corte di Strasburgo, per non farsi togliere il 10% di cifre eccessive che si sono costruite loro con le loro leggi. Questo è il punto fondamentale. Questo non è populismo, è la realtà, è la realtà. Siccome quei soldi là sono soldi nostri che vengono tolti anche ai giovani, a quelli che andranno in pensione e che probabilmente non la prenderanno, è questa la vergogna. Però voglio darvi un po' di sollievo con una tweet che ha scritto Fulvio Abate, l'amico Fulvio Abate. I grillini cacciati devono tenere lo stipendio per spenderlo a puttane, così ha detto il signor Abate. Io direi, però, estenderei questa cosa anche ai grillini che non sono stati cacciati, cioè anche ai grillini che sono rimasti nel Movimento 5 Stelle. Allora vorrei dare un consiglio: tenetevi lo stipendio, non lo date alle microimprese, non ne hanno bisogno dei vostri soldi, alle microimprese, alle iniziative. No, datelo alla prostituzione, spendetelo a troie. Io ascolto la sua trasmissione saltuariamente e sinceramente non ho capito a cosa lei serve. A un cazzo. Caro Parenzo, come sai, pur essendo a Parigi, domani si dimette il Presidente della Repubblica. Ormai è abbastanza scontato. È una notizia nota, diciamo. Nota. Si dimette domani il Presidente della Repubblica. Ebbene, nel giorno delle dimissioni, comunque nei giorni delle dimissioni del Presidente della Repubblica, una deputata, se non sbaglio, no? Deputata del, o senatrice anzi, del M5S, del Movimento 5 Stelle, che pure ho votato, che pur nonostante quello che dice il signor Grillo alla zanzara, cioè fate schifo, mi fa schifo quello che fate. No, mi fa schifo quello che fai oggi, Grillo, proprio. Però ha detto anche che fate, no? Perché mi ha associato a te. Beh, sì, certo, in questa trasmissione siamo associati, almeno in questa siamo associati, però non è che possiamo. Sì, ma fate delle cose schifose, dico, ma perché? Ma dai, bene, ma dai, ottimo, Giuseppe. Altra medaglia puntata sul petto, cioè quando un leader politico ti dice fate delle cose schifose, è stupendo, meraviglioso. No, io gli ho detto, appunto, gli stavo dando la mano, no? Ma non può, e lui mi ha detto come, ma non posso darti la mano, mi fa schifo. Beh, ma lo faceva ridendo, secondo me alla fine. No, sì, lo faceva un po' ridendo, però poi allora, questa la cosa mi fa piacere perché io, a differenza tua, sì, non l'ho votato. Volevo dirgli, guarda, che quel coglione di Cruciani ti ha pure votato per te. Ha votato per uno che fare il comico che come politico non fai neanche ridere. Capito? Allora, questa, nei giorni delle dimissioni di Napolitano c'è una senatrice dei 5 Stelle che si chiama Bottici. Laura Bottici. Tanto uno vale uno, li sono tutti uguali, ce ne frega. Sì, c'è qualche differenza, però è vero, in generale sono tutti uguali. La quale prendendo come sostegno il libro del signor Magaldi sulla massoneria, il nostro amico Magaldi. Vabbè, Magaldi è una brava persona. Bravissima persona. Il suo libro di Magaldi, però stiamo parlando del libro di Magaldi. Cioè, stiamo parlando del libro di Magaldi, cioè un libro, diciamo, che è un grandissimo romanzo della massoneria e dei suoi legami. Un romanzo meraviglioso, ma un romanzo. Secondo me, io lo critico, è stupendo, però è così. Signor Magaldi, dice questa senatrice dei 5 Stelle al Senato, cioè non a casa sua in privato col marito, eccetera, al Senato, dice che Napolitano sostanzialmente, secondo Magaldi, è massone, dunque lui ci deve dare delle spiegazioni sulla sua appartenenza alla massoneria. Il 20 novembre 2014 è uscito un libro molto interessante del grande maestro Magaldi, fondatore del Grande Oriente d'Italia Democratico, intitolato Massoni. L'autore afferma, con tanto di foto in bella vista, che il nostro attuale Presidente della Repubblica, sì, è affiliato alla loggia massonica segreta sovranazionale, sì, aristocratica reazionaria Free Eyes. Renzo, non era questa senatrice è balbuziente, cioè ha dei problemi. No, non è, ma io non. Non è, non è un errore, diciamo, di. No, nell'audio. Vedi, anche... No, ma infatti non voglio assolutamente. No, perché... ma io ti voglio dire questo: anche Mosè, il grande Mosè, era balbuziente, eppure ha tratto fuori dall'Egitto il popolo ebraico. Sì. Quindi il difetto della balbuzia lo ha fatto diventare uno dei delle allora, questa, più certo, assolutamente. Questa, il fatto che questa sia balbuzia, non me ne frega niente. Nemmeno a me, assolutamente. Delle stupidaggini che sono grandi. No, cioè, questa sì. Quanto il Burj Khalifa. È presente il Burj Khalifa di Dubai, no? No, dove non lo so, che cos'è il Burj Khalifa di Dubai? È un grattacielo, il grattacielo più grande del mondo. Questa ha detto delle stronzate alte come allora, Burj Khalifa. La sostanza qual è? È che questa signora, questa senatrice, vorrebbe delle spiegazioni da napoletano sulla sua presunta appartenenza, secondo il signor Magaldi, alla loggia Three Eyes. Sì, Three Eyes. Senti, ha senti. Letto due tre cose. Senti, senti qua, vada, ragazzi, ma di che stiamo parlando? L'hai mandata tu lì, dopodiché devi prendere con te stesso, perché. Spero che il futuro senatore a vita napolitano trovi il tempo di spiegare a tutti i cittadini con una conferenza stampa l'intera vicenda o venga a farlo in quest'aula, visto che tra poco sarà di nuovo senatore a vita. Tutti i cittadini attendono con ansia e anche i suoi futuri colleghi. Grazie, l'attendiamo. Ma quale ansia? Alla gente non gliene frega un cazzo se napoletano, come dice Magaldi, apparteneva alla loggia Three Eyes. Amica mia, ti ho mandato in Parlamento per chiedere a Napolitano di spiegare se apparteneva alla loggia Three Eyes. Non mi fare pentire di aver votato 5 Stelle, non mi fare pentire, nonostante quello che dice Grillo. La loggia Three Eyes. Mi sembri Mandarà, peggio di Mandarà. A posto. Grasso, giustamente, a un certo punto cosa dice? Si attende. Grasso chi? Giorgio Grasso? No, il presidente. No. Giorgio Grasso, Grasso è il numero uno, lascialo perdere. Cioè, Giorgio Grasso è il, Grasso è il tuo amico. È il più bravo di tutti a parlare, a ragionare. Molto meglio di Grasso, il presidente del Senato, non c'è dubbio su questo. C'è alcun dubbio. Sono siciliani tutti e due. Molto meglio il signor Giorgio Grasso dal punto di vista politico. Perché mica ho detto che Pietro Grasso è una pippa. Ho detto che a me piace più il signor Giorgio Grasso. Comunque, in questo caso si sta parlando invece di Pietro Grasso, presidente del Senato, il quale dice: scusi signora senatrice, si attenga al tema. Si stava parlando di altro, ovviamente, no? Chi può darci assicurazione che il presidente in questi anni abbia agito nell'interesse della Repubblica Italiana e non nell'interesse della loggia segreta sovranazionale a cui sembrerebbe affiliato, un avvocato, un giudice? Senatrice, la prego di attenersi al tema per cui ha chiesto di intervenire. È informazione che sto chiedendo. La sua sono opinioni, non sono informazioni. Sono informazioni. C'è un libro pubblico che afferma che forse presidente non mi sono della... spiegato, quando lei pone delle domande non fa informazioni. Napolitano spieghi e si conclude così. Va bene, Michele da Pordenone. Volevo dirti che oggi ho fatto arrabbiare la tua amica Le Pen di nuovo. Ma io non la conosco, non l'ho mai vista in vita mia e non è affatto mia amica. L'ho fatta un po' arrabbiare. E vabbè, vedremo domani a Matrix. La tua amica Le Pen. Michele da Pordenone, poi Chiara da Padova. Michele. Buonasera, io volevo dire una cosa riguardo col tagli dei 10% dei vitalizi ai parlamentari. Allora, secondo me si concentra troppo su un problema che non è un problema, nel senso che gli stipendi vitalizi di parlamentari, di politici, sono parte del bilancio dello Stato italiano, sono una minima parte del bilancio dello Stato italiano. Sì. Se continuare a parlare di queste cose non fa altro che... Senta, scusi Michele, io non so chi ci vuole distrarre, io non voglio distrarre nessuno, io parlo del cazzo che mi pare. Adesso, questa storia qui per cui bisogna parlare di altre cose, non bisogna parlare dei vitalizi perché è una minima parte del bilancio italiano, mi ha veramente rotto i coglioni. Cioè, allora, adesso, che Capanna mi venga a dire che c'è il problema dei disoccupati, che c'è il problema di quello, il problema di non so che cosa, veramente è fuori da ogni logica. Certamente, come ogni cosa, non è tutto, no? Non è la soluzione soluzione di tutti i problemi. Ma se un signore che prende un vitalizio di 5.000 e passa euro netti non vuole rinunciare neppure al 10% di un vitalizio che è chiaramente frutto di norme sbagliate, chiaramente frutto di norme esagerate, chiaramente frutto di un privilegio, e non ammette nemmeno questo privilegio, io posso capire che la gente un poco si incazzi. Tutto qua. Lei non si incazza, pazienza, ha il diritto di non incazzarsi. Non sento però, Michele, parli bene, si avvicini al microfono, su, dai. Che questo sia una cosa che fa assolutamente incazzare la gente, non lo metto in dubbio in nessun modo, però non si può pretendere che una volta che nel nostro passato dei politici hanno fatto degli errori, hanno fatto delle leggi, e allora? Apposta per garantirgli dei privilegi, sì. Non si può pretendere che queste persone adesso ammettano e rinunciano il 10%, un errore l'abbiamo il 10%, il 10%, il 10%, il 10%, il 10%, dovrebbe nemmeno interessare togliere il 10% dal vitalizio, il 10%, perché se al posto che 5.000 ne prende 4.500, come dice lei, sì, a nessuno frega un cazzo di 500 euro in meno, anche a parlamentare. Michele, arrivederci. Chiara da Padova. Chiara da Padova. Ciao Giuseppe. Ciao Chiara, dimmi. È un'ora che aspetto, c'ho anche la spesa in macchina, va bene. Dimmi. Ho sentito la mia collega, la Barbara. Collega di che? Collega di cosa? Collega di gruppo del Riccardo da Roma. Capito? Francesco. Collega, Parenzo, collega. La mia collega. Siamo una Ognuno si iscrive ai club che ritiene più simili a se stesso. Quindi. Vabbè, allora che vuoi, Chiara, dimmi. L'Interclub, vabbè, comunque altri luoghi, insomma. No, vabbè, vabbè, cosa? Ieri è stato gradevolissimo, è stato carina come cosa, però ecco, usare Riccardo così, insomma, non è che ci sia piaciuto tantissimo. Poi usare Riccardo così. Parenzo, ti prego, rispondi tu, dai, su. Parlate di questo Riccardo da Roma, ascoltatore della radio, come fosse stato vilipeso il profeta. Cioè, io credo veramente c'è un ma avete della segatura nella testa lì dentro, chi chiama su quello che non so più di che cazzo parlare, cioè, è sconvolgente. Gesù Riccardo da Roma, diciamo, allora, per l'affronto che c'è stato, non Charlie. Dopo le Iene, Gesù Riccardo da Roma, dai, su, ragazzi, avete esagerato un po'. Poi se si vuole far vivo lui e dire che le Iene hanno fatto una sostituzione di persona, che lo hanno umiliato, che lo hanno diffamato, faccia pure, ci chiami, eccetera, se la cosa non gli è piaciuta. Però adesso che venga difeso perché è stata messa in discussione la sua immagine, adesso questo francamente no. Allora ragazzi, qui abbiamo un signore, cosa succede a Vicenza, caro Parenzo? A Vicenza succede che la candidata alla presidenza della Regione Veneto, le elezioni credo ci saranno a marzo, la Moretti, la signora Moretti, Madame Moretti, invece di essere a Strasburg, è ovviamente in campagna elettorale. Ma perché si sta dimettendo dal Parlamento Europeo? No. Te lo dico io. No, vediamo. Questa notizia, visto che arrivo da Strasburgo. Cioè lei prima delle elezioni assolutamente si dimetterà. Sì. Questo lei, è buono. Non so se già in questa sessione no. Se lo fa va bene, anche se poi è automatico. Anche se poi è automatico che diventerà consigliere regionale, anche se perde. Vabbè, anche se perde c'è. È automaticamente consigliere regionale, questo bisogna dirlo. Vabbè, cioè non è che rimane, se perde non è che rimane a casa. Vabbè, è in automatico. No, c'entra. E fa bene a dimettersi. Fa benissimo a dimettersi perché è giusto, nessuno lo fa e dunque fa bene a dimettersi. Lei però a giorni, però spieghiamo, ti do questa notizia, a giorni si dimetterà dal Parlamento Europeo, Europeo. Questi due giorni io non l'ho vista, poi sono partito oggi per venire a Parigi, però non c'è, è a, secondo me, ancora a Vicenza. Potrebbe già entro giovedì però venire qui a formalizzare le sue dimissioni, che il Parlamento Europeo, a differenza degli altri parlamenti, accetta in genere. No, benissimo, no, ma questo va bene, però ricordiamo che al di là di catastrofi pazzesche, pur arrivando seconda, se dovesse arrivare seconda con Zaia, se dovesse vincere il signor Zaia, l'INPS diventerebbe automaticamente consigliere regionale. Diventerebbe consigliere regionale, ma non è una colpa quella. Cioè, no, però vuol dire, non è che resta a piedi, ecco, non è un rischio, non prende alcun rischio. Non prende alcun, si dimette giustamente, ma non prende alcun rischio. Questo lo il rischio è quello di essere, di come è stata appena votata con le preferenze. Di che prende pure più soldi, secondo me, da consigliere regionale. Sì, sì, secondo me se prende più soldi. Eletta, però aspetta, sicuramente a Vicenza, perché se non diventa presidente della regione, comunque vabbè, la quello perde. È una grande vabbè, sconfitta. Quello d'accordo. Cosa, la vuoi vedere morta? No, assolutamente. Viene eletta in consiglio regionale. No. Sei diventato di un populismo. Aspetta. Un populismo agghiacciante. Oddio, Parenzo, mi fai sentire una persona che l'ha incontrata, la incontra spesso in una pasticceria, in un bar la mattina. Si chiama Paolo Forza, che è attivista del Movimento 5 Stelle. Paolo? Forza, buonasera. Comandi. No, comandi lei. Non esageriamo. Allora, ma è vero che lei ha detto ogni giorno quando la incontra dice alla Moretti vai a lavorare? Beh sì, io ho incontrato la Moretti già a dicembre un paio di volte e le ho chiesto perché non ha il Parlamento a Bruxelles, visto che io l'ho votata. Giusto. E deve lavorare. La paghiamo 20.000 euro al mese e deve lavorare. Sì. Ieri mattina l'ho incontrata alla pasticceria Bolzani. Sì. E stavo comprando i pasticcini per i figli. Sì. E io le ho chiesto: ma perché sei qua? Che adesso c'è la plenaria a Bruxelles e stanno votando per impedire agli OGM di entrare in Italia. Vabbè. Tu devi andare a lavorare perché io ti pago, sei la mia dipendente e devi andare a lavorare. E lei come ha reagito? Non ha detto niente, ha detto: ma lei chi è? E cosa vuole da me? E vada a lavorare lei. Io ho detto: guardi, io pago 3.000 euro di tasse al mese e lei, visto che è la mia dipendente, devi darmi del lei e deve andare a lavorare. E lei ancora come ha risposto? Niente, adesso chiamo i vigili, io non avevo tempo perché lavoro. Sì. Io ho detto: guardi, domani mattina venga qui alle ore 8 con i vigili, i carabinieri e la polizia, che ne parliamo. Sono andato stamattina. E chi c'erano? I carabinieri in borghese, poi ha chiamato la pattuglia. La pattuglia e i carabinieri? E perché? Sì, ma non mi hanno aspettato, non so, hanno preso giù il nome, comunque ho filmato tutto. Ma perché hanno preso il nome, scusi? Perché io molestavo la Moretti. Parenzo, che dici tu è pazzo? Perché dice pazzo? Ma perché voglio dire, intanto hai detto che è pazzo, sta spiegando quello che è successo. Perché è pazzo? Questo metodo grillino di chiamare i deputati miei dipendenti. Vabbè, ma quello sono affari suoi, adesso non è che gli devi contestare questo. Come quando si fanno chiamare cittadini e non deputati a omaggio alla rivoluzione francese, taglia. Noi la paghiamo, la pago io come la paga lei con le tasse, quindi deve lavorare come tutti. Ma non dica stupidaggine, lavora sul suo territorio, sta facendo campagna elettorale per il Veneto. È candidata, sta lì, ho capito. Basta, sta lavorando, è allora, politica a lavorare. Visto che ti abbiamo votata per andare al Parlamento europeo, stai al Parlamento europeo. E visto che si tratta di OGM, vabbè, okay, quello con qualsiasi cosa tu si devi voti. Stare in Parlamento europeo. Vabbè, comunque lui ha il suo modo di contestare. No, va bene, dico, era un mio intercalare, non è che volevo dire che va bene. Quella si è spaventata e ha detto: mi faccio chiami via le generalità e ha chiamato i carabinieri. Avrei fatto uguale anch'io, se uno mi rompe i coglioni. Ma ha detto vai a lavorare, no? Io non ho rotto i coglioni, prima cosa, ho detto vai a lavorare perché noi ti paghiamo. Stavo girando per Roma, mi è capitato, uno mi ha fermato, mi ha detto: ma lei è in paese della Zara? Dico sì, lei è un cretino. Dico: mi ha detto scusi, lei è un cretino. Chiamate i carabinieri. Ma sei un invece, ma scusami, ogni cosa i carabinieri, ma adesso è esagerato. No, ma i poliziotti hanno altro da pensare. Ma ecco perché non sono poi. Posso dare una testata? Ma scusa, io non ho offeso nessuno. Ok. No, ma non rompo le palle, io ho solo detto devi andare a lavorare, non prendere le pistelle al bar. Ma che è un'offesa? Scusi, no, se scusi lei, scusi un secondo, non mi avete chiamato, adesso mi lasciate parlare. Certo, no, parla, non c'è problema. Mi faccio una cortesia, ok? Allora, siccome questa signora è pagata, devi lavorare, ok? No, ancora questa storia, deve stare al Parlamento europeo, se no dimettiti a casa a fare le fritelle e farti la ceretta, ok? No, ma ha ragione Forza, cioè il punto fondamentale è che lui, sì, non so, lei è stato aggressivo? È stato, che ha no, fatto? Gli ha urlato in faccia? Ha fatto qualcosa del genere? No, solo detto, cosa fai qua? Non una volta, l'ho vista a dicembre, una, due, tre volte al bar alle 8 del mattino. Siccome io lavoro e non prendo, e prendo veramente pochi soldi rispetto a questa signora qua. Vabbè, al bar ce l'hai pure tu, però, non è che non ce l'hai al bar. Se la l'onorevole Moretti ha l'unica colpa di... No, però scusa, il punto è chiamare la, il punto è chiamare la polizia. Ma se uno gli rompe le balle come questo qua, ma non gli ha rotto le balle, è un... la forza pubblica, gli dici, ma quella è una deputata. Scusate, guardate che il giornale di Vicenza mi ha dato dello psicopatico, ok? Ma lei è uno psicopatico, ma si faccia vedere da un ospedale lì di Vicenza. Ma lei cos'è, del Partito Unico? No, no, io sono del partito che se uno mi rompe le balle per tre volte... Io non rompo le palle a nessuno, dico solo la verità. Allora, okay? Paolo, forza, di andare a lavorare. Paolo, forza, tornerà domani alla Zanzara perché ci deve raccontare bene come va a finire questa storia. Paolo, forza, ci sentiamo domani, alle ore 8 voglio tutti a fare colazione al Bolzani in via 4 novembre. Vabbè, adesso non è che devi fare pubblicità al coso, al bar, però va bene, via 4 novembre Bolzani, vediamo se c'è la Moretti pure domani. Ci sentiamo domani alla radio con te, Paolo, forza, a tutti voi abbracci, baci e vaffanculo. Volevo salutare affettuosamente Cruciani e il piccolo Parenzo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ti prego. Radio 24. La passione si sente. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Vi ha presentato La Zanzara.